come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Caro Parenzo, torna di grandissima attualità. Molto attuale, alta direi. Ma ti rendi conto, il pubblico ministero di Milano, i pubblici ministero di Milano vogliono che Berlusconi vada subito a processo, subito. Certo, giusto. No, ma subito, questa procedura del rito immediato, mi dicono sia stata utilizzata dalla procura milanese solamente nel caso di boss dell''Ndrangheta. Beh, vabbè, adesso qui, Anche le persone più vicine al mondo delle procure, che sono più attente al lavoro dei magistrati, persone non insensibili, sì, diciamo, alle indagini di Berlusconi nei confronti, sì, della magistratura nei confronti di Berlusconi, mi dicono che effettivamente questa cosa del rito immediato significa anzitutto che hanno credono di avere prove granitiche. Subito. Beh, lo prevede l'articolo 453 del codice, ma al di là dei numeri, adesso non fare queste cose da saputello. Ma al di là delle cose da legule io, infatti, lo fanno per lui. Io sono questa cosa qui è a tutela di Berlusconi. Ma io non lo so, non credo che sia a tutela di Berlusconi. Intanto ma senti questa voce. Voglio pensare che sia per lui questo, per salvaguardare il suo buon nome. Ma finiscila. I magistrati che vogliono salvaguardare il buon nome di Berlusconi. Per tutelare il buon nome della Presidente del Consiglio. È evidente che sei pazzo. È evidente che sei pazzo. Immediatamente davanti. Sei pazzo. Andiamo, sentiamo questa voce. Rubi. Voglio sentire Rubi, intervistata da Repubblica nei giorni scorsi. Feste normali con Berlusconi. Sembra, secondo i magistrati, che non fossero troppi normali, troppo normali. La questione però è una sola: i magistrati vogliono scoprire, questa è un po', non dico un'anomalia, è certamente una stranezza, certo è curioso, i magistrati vogliono scoprire se ci sono state relazioni sessuali tra Berlusconi e la minorenne, questo è il punto fondamentale. Dunque stanno facendo indagini a tutto campo, hanno fatto indagini a tutto campo in questi ultimi mesi sulla vita privata del Presidente del Consiglio. Non solo, persone che sono state a quelle feste vogliono sapere se ha telefonato per salvare la nipote di quella Mubarak. La concussione sarebbe stata, secondo l'ipotesi dei magistrati, sarebbe stata perpetrata, sempre se naturalmente la cosa si possa poi configurare nella realtà, proprio per coprire la vicenda dei rapporti sessuali con Ruby. Quelle serate si svolgevano molto normali, nel senso che comunque arrivi, fai la cena, il presidente che canta con la picella, ci divertiamo sulle sue solite barzellette che credo che ne dice tante anche in pubblico. Si ride e si scherza, diciamo che l'unica stranezza in tutto quel cosmo è il fatto di trovarsi nella casa del presidente, che non è una cosa che capita tutti i giorni, perciò ti trovi spaesata e non sai mai come comportarti. Tra l'altro questa notizia che viene dalla Tunisia, caro Parenzo, è abbastanza curiosa, perché Ben Ali è sempre stato un grande amico di Berlusconi, nonché di molti governanti italiani nella sua lunga storia di dominio della Tunisia. Va bene, ancora Rubi, intervistata da Repubblica qualche giorno fa su Barbara Berlusconi. Stimo Barbara Berlusconi, se dice che le feste danneggiano il padre sarà vero, lo dice Rubi, via. La figlia di Berlusconi, Barbara Berlusconi, in un'intervista recentemente ha detto che questo stile di vita del padre, queste feste, questo stile di vita piuttosto disinvolto lo può aver danneggiato anche da un punto di vista politico. Che pensi? Che può conoscerlo meglio di sua figlia, credo che se l'abbia detto lei vuol dire che è vero. È una persona che io stimo molto, nel senso, leggendo, non l'ho mai conosciuta, non ho mai avuto questo piacere, però leggendo la sua intervista, l'ultima intervista che aveva lasciato con tante foto stile anni 60, ha parlato della sua famiglia, ha parlato della sua carriera e dei suoi valori, e credo che di valori ne ha avuti tanti. E poi sul Bunga Bunga, di cui non sa niente, sentiamo ancora Rubi. Diciamo che il Bunga Bunga io non ne so niente, oltre la barzelletta che viene raccontata, non so, sicuramente la conoscete perché l'ha raccontata anche Noemi Letizia, questa famosa barzelletta che ci ha fatto molto ridere, e poi i balletti delle ragazze, ma niente di più. Vabbè, insomma, avete capito, è una delle cose che ha detto Rubi in questa intervista. La versione, secondo la verità, secondo i magistrati, è completamente diversa. Ipotizzati reati di prostituzione minorile e concussione. Rubi sarebbe stata più volte ad Arcore, secondo i tabulati, caro Parenzo. Prova a pensare a cosa è successo oggi, povero Berlusconi. Che è successo? No, perché è andato alle 8:30 dal direttore Belpietro e ha fatto la telefonata a mattino 5. Sì. Verso le 9:30 magari ha preso un altro caffè, ha fatto un briefing con i suoi e alle 10 si trova era andato a mattino 5 per commentare il mezzo successo della consulta, del voto della consulta, della sentenza della consulta. Il pari e patta, insomma. Però comunque era soddisfatto, lo abbiamo sentito, insomma, abbastanza più. Non cambia nulla, insomma, mezz'ora dopo. Flash d'agenzia. Dicono prima di ricevere poi formalmente una cosa, vabbè, questo, la documentazione, sì. L'avviso di garanzia, le formalità. Il giudizio immediato per Berlusconi è per tutelare la sua buona immagine, quindi lui vada lì, risolva tutto, vabbè, e si sottoponga al processo. Vabbè, è per lui che lo fanno i magistrati. Sicuro al 100%. A proposito di questione giudiziaria, sentiamo Di Pietro. Berlusconi solo dopo morto sarà processato. Adesso invece i giudici chiedono il rito immediato. Nel caso il giudice ti permettesse di dire una volta sola, questa azione che tu fai non rientra nelle tue funzioni. Lui può fare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale e ancora una volta tirare a campare. Lei l'ha detto. Con questa legge e con le furbate che Berlusconi, il tuo Ghedini e compagnia bella porta avanti, solo dopo morto può essere processato. Beh, effettivamente, come sapete, questo caso probabilmente si applicherà anche nella vicenda Rubi, anche se i legali di Berlusconi dicono che Milano è incompetente, eccetera, eccetera. E effettivamente i giudici hanno l'ultima parola, però poi può essere sollevato da parte degli avvocati del Presidente del Consiglio un conflitto di attribuzione, di competenza, anzi, e dunque si può andare per lunghe anche nel caso i giudici decidessero che deve essere presente in una certa udienza. Per Berlusconi il giudizio immediato non sarà mai immediato per Berlusconi. Non lo so, si può ipotizzare una cosa di questo tipo. Di Pietro sostiene che per Berlusconi anche andare al CES è un'attività preparatoria. Senti. Quando c'è il Consiglio dei Ministri, è evidente, c'è il Consiglio dei Ministri. Il problema è che nell'elenco previsto, al comma 1 di cui diceva lei prima, c'è tutta l'attività preparatoria e conseguenziale. Cosa vuol dire questo? Che conoscendo Berlusconi, fatta la legge e trovate l'inganno, questo pure quando deve andare al cesso già è un'attività preparatoria dell'attività dei ministri. Hai capito? Va bene, 18:40, 800 24 00 24, vi pongo una questione. Secondo voi, ma la risposta è scontata, secondo voi è legittimo che i magistrati di Milano facciano indagini per scoprire se Berlusconi ha avuto rapporti sessuali? Perché di questo si tratta alla fine, no. Rapporti sessuali con una ragazza minorenne, come no? È questa la cosa. Non è questo il punto. Ma lascia perdere la concussione, quello è un altro discorso. La concussione è un altro discorso. Il fulcro della questione, lasciamo perdere la concussione, è semplicemente questo. I giudici hanno fatto indagini per mesi per scoprire se Berlusconi ha avuto rapporti sessuali con una minorenne. Questa è la realtà. Rapporti sessuali a pagamento. Fino a quando non si abolisce. Sì, no, ma io non sto dicendo che è sbagliato. È questa è la cosa, I giudici, hanno fatto indagini mirate con i tabulati, eccetera, a scoprire se Berlusconi ha avuto rapporti sessuali con una persona minorenne. Sì, attento però qui le indagini sui tabulati, se no si crea l'equivoco. Non è sui tabulati di Berlusconi, del Presidente del Consiglio, ma è su tutto il mondo che gli ruota allegramente intorno. Sì, no, certo. Poi bisogna vedere se Berlusconi era consenziente o no. Secondo i magistrati, la prova, almeno da quello che sappiamo, che Berlusconi era consenziente, sarebbe nel fatto che una volta che chiama per l'affidamento, no? Una volta che chiama dice date in affidamento. Dunque, in quel momento è consapevole del fatto che sia minorenne, però uno poteva anche averlo saputo qualche minuto prima, qualche ora prima. Sì, d'accordo, sì, per carità, io diventerò presto direttore del TG1. Chi c'è? Tutto questo, certo. Sgarbi, Vittorio! Eccoli qua. Siete confusi da ogni punto, ogni volta che vi ascolto una confusione mentale. Ma come una confusione mentale? Ovviamente ottenebrate. Come ottenebrate da che, scusa? Allora, il reato. Dimmi. Che non c'è. Illuminaci. È una clamorosa invenzione. Ma come invenzione? No, non cominciamo. Invenzione. È favoreggiamento della prostituzione. No. Che cos'è? Induzione alla prostituzione minorile, sfruttamento alla prostituzione minorile. No, stare con una minorenne è lecito. Non c'è, voi non sapete proprio nulla. No, sì, sì, è così. Cioè, allora, se lei è consenziente, dopo i 16 anni. Se lei ha meno di 14 anni è pedofilia, ma dai 14 anni in su, una donna consenziente che decide di fare un figlio con un uomo di 80 anni, d'accordo, lei consenziente lo può fare. Ma questo infatti è... Quindi Berlusconi, anche se avesse fatto quello che sono sicuro che non ha fatto, sarebbe stato con una donna adulta come lui, sì, poi particolarmente adulta, anche se 17enne, la quale era minorenne all'anagrafe, ma consenziente all'atto. Quindi due che stanno insieme per qualunque ragione e per qualunque utilità fanno un contratto che non può essere messo in discussione da nessuno. Può essere o per piacere, io ti do un piacere, oppure anche per soldi, io batto a macchina per te un testo e prendo 50 euro. No, ma io vengo a letto. Qui non si dice che uno batte a macchina un testo, Vittorio, no, scusami. È la stessa cosa, è una prestazione. Beh, no, tra due persone. Il problema è che ci sia qualcuno che trae beneficio da questa azione, cioè ha preso una quota l'elemora o fede dei soldi che Berlusconi potrebbe aver dato Rubi. No, non c'è prostituzione. No, ho capito, ma questo che una donna si dia per soldi è nella natura delle cose. Ho capito, ma se è minorenne si configura, se è minorenne Fini ha inventato un reato che non esiste, come sempre, per fare un'azione politica di discredito di un signore che avrà i suoi limiti, ma se Vendola lo prende nel culo da un dittatore. No, no, fermo, aspetta. Ma dico esattamente questo e lo fa, sono cazzi loro, se poi gli dà 200 euro, sono cazzi loro, punto. Se non c'è un terzo che prende, non c'è prostituzione. Io pago la prestazione perché gli fa piacere di pagarla. Ho capito, però questo commissariamento della verità tutti i giorni. Rubi è stata portata da un amico e l'amico non ha preso una lira dei possibili. Ma questo non lo sappiamo, questo non lo sappiamo. Ma siamo assolutamente certi che Fede non ha preso soldi da Berlusconi. Ma questo non lo sappiamo. No, non è possibile. A parte che non può esserci nessun atto fra i due. Ma se ci fosse stato, era un atto assolutamente consenziente di lei e di lui, lei poteva pagare un reato. La prostituzione potrebbe essere che Rubi ha pagato il premier 500 euro. Perché no? Perché no? Ho capito, perché qui soltanto la prostituzione deve essere nella direzione della donna. Ma io non lo so perché, fatto sta che se questo può dare, naturalmente non è avvenuto. Però scusami Vittorio, se c'è un reato che si chiama prostituzione minorile, è l'unico reato. Non è la prostituzione minorile, è lo sfruttamento della prostituzione che è il reato. La prostituzione è quello che ognuno di noi, tu che vieni pagato per parlare, fare un pompino è come fare una conferenza, uguale. No, aspetta. Io faccio conferenze gratis e conferenze a pagamento. Se mi pagano sono contento, se non mi pagano come stasera meno. Fare un pompino è la stessa cosa, occorre finirla con questo moralismo. Se sei una minorenne, no, però. Se sei una minorenne, non è così. Se sei una minorenne, andrebbe non è arrestata così. La Boccassini per aver costruito questo teorema. Ho capito. Aspettiamo un attimo. Non perché non c'è nulla. C'è. Se invece io pago l'elemora, do i soldi a lui, se paghi lei, il favoreggiamento vede una persona che prende soldi per far prostituire un'altra e all'altra dai il 20%, 30%, ma se i soldi li avesse mai dati e non li avrà dati Berlusconi a Rubi, sono cazzi loro. Vabbè, torniamo su questo e poi ti cito. Questa materia ridicola e grottesca. Torniamo su questo. Berlusconi vuole pagare te per venire a letto con te. No, non ci tengo. Sono fatti vostri, è lecito, è possibile. Ho capito, ma siamo maggiorenni, cioè, noi siamo maggiorenni. Anche se tu no, ma il punto è quello, No, non c'è nessun punto. Ma come no? Altrimenti non si discute. La minorenne può, come qualunque donna, fare un'azione sessuale anche per un vantaggio materiale. Ma se c'è Per la ricarica del telefono. Sì, è ma capitato, c'è un articolo di legge che dopo ti spiegherò che può prevedere anche un'ipotesi diversa da quella che tu prospetti. Traffico. La vedo perfettamente. C'è un tentativo di incriminare il premier con dei reati ridicoli. Beh, quella è una valutazione molto politica. Mortificanti, quella, perché la gente non pensa ai soldi. È normale che un vecchio possa dare dei soldi a una giovane. Ma la giovane non è una giovane, il vecchio non è vecchio, il vecchio è un importante politico. E la giovane è una minorenne. Questa è la cosa che si vuole far pensare. No, ma la cosa vuol dire crimine legato a dei ruoli. Vabbè, torniamo tra un attimo. eccoci, 18:49, 800 24 00 24. Che vuoi dire, Parenzo? Che vuoi dire? No, voglio dire al professor Sgarbi che la vicenda non è esattamente così. Cioè, secondo il professore, la scriminante, per usare un termine giuridico, di tutta la vicenda sarebbero i due protagonisti, cioè un uomo pubblico con molto potere e che piace. No, ma lasciamo donne, perdere l'uomo pubblico, sì, che c'entra? La scriminante sarebbe questa nella ricostruzione dei fatti, cioè il carattere dei due personaggi. Non sta in piedi la vicenda perché l'ex igienista dentale del premier, la signora Minetti, attualmente consigliere regionale, è accusata dai giudici di violazione della legge Merlin. È stata lei, secondo questi magistrati, a indurre la giovane Ruby Rubacuori, nipote di Mubarak, alla prostituzione. Quindi non c'entra niente chi è lei e chi è lui. Il codice non si basa, è che dice se uno è famoso va bene, se uno non... No, ma quella è la valutazione politica che ha fatto Sgarbi. Ma no, perché lui ne fa una questione di diritto e questo è il punto sbagliato, perché tutto il resto, figuriamoci, si può discutere, ma il diritto non è che dice se la persona è famosa o se non è famosa. Il diritto si basa su una norma, su... vale per tutti, non per una persona. La vittima è Berlusconi. Ma due donne, la Minetti e Rubi, hanno indotto a prostituirsi al povero Berlusconi e lui il prostituto. Non ho capito perché era la Rubi Rosa. Ma come l'hanno indotto? Che significa? È una situazione inverosimile, siete peggio della Boccassini. Ma perché l'hanno indotto? Non vedeva l'ora di andare a letto con il premier e non vedeva l'ora di avere, non aveva bisogno di qualcuno che la portasse. Era felicissima, è stata presentata. Se a me presentano una bellissima ragazza, me la voglio beccare. Quello che me l'ha presentata lo mando a fare in culo. Non gli do nulla. Lasciamo fare le biografie personali. Esiste una necessità di desiderio reciproco che prescinde da qualunque intermediario. Però scusami, non Vittorio, se uno è della Boccassini, che queste tematiche non le può neanche immaginare. Perché non le può immaginare? Perché non esiste uno che vuole andare con lei. Ah, ho capito, adesso che c'entra. Già ci beccheremo qualche querela, allora, adesso pure dalla Boccassini. È un atto di fatto, c'è. Se tu vedi Ruby Rovirosa, puoi portartela a letto. Non hai bisogno della Minetti, la metti davanti. Se c'è questa ragazza, ottimo, vediamo. Si parlano da soli, non hanno bisogno di intermediazioni. Non c'è prostituzione, c'è una scelta dentro la quale ci può essere, come indicava Victor Bloch nel suo bellissimo libro Difendere l'indifendibile, è anche il fatto che uno dà in contraccambio affetto, l'altro dà danaro. Però quello che io do sono fatti nostri. Se uno, questo può essere, ma se uno è cliente di una prostituta minorenne, commette un reato secondo il codice? No, cliente e ha un rapporto con una donna, che sia minorenne o maggiorenne, l'essenziale è che non sia sotto i 14 anni, che sta con lui e decidono che cosa darsi, affetto, patatine. Allora anche pagare una cena, ti porto in un posto dove la cena costa 300 euro e ti ho pagato? Ma che cosa state raccontando? Siete peggio della Boccassini. Ma no, ma io non sto dicendo che ha ragione la Boccassini. Non capite la logica delle cose. Io non sto, la donna va, perché gli uomini hanno la Kawasaki e la Ferrari per attirare figa, la tirano con, ma io non ho neanche la patente, allora ma cosa il denaro, ho capito, benessere. Ma allora eliminiamo, scusami Vittorio, eliminiamo questi reati, eliminiamo l'esistenza di questi reati, se esistono. Ma non però sono i reati, è tutta un'invenzione, è una follia di tempi purtroppo tragici in cui la magistratura, invece di occuparsi delle paleoliche e della distruzione del paesaggio, sta a guardare chi scopa con chi. Sono cazzi loro, ma se te ne frega del questo, però devo dire la verità su questo, sul fatto che non se ne può più. No, devo dire, mi chiama il giornale, è capitato prostituzione. Ma quale prostituzione? Una ragazza, io invito una ragazza che guadagnerà, magari fa la cubista, guadagna 200 euro a sera, dice vado a trovare Sgarbi che mi porta al Hotel Cipriani, dove una stanza costa 7.000 euro, ci vado, io pago 7.000 euro della stanza, non do una lira a lei, ma lei è venuta per vedere il lusso. E se gli dai 7.000 euro invece? Non devono rompere i coglioni. E se gli dai 7.000 euro? La Gregoraci sta con Briatore, perché Briatore è un signore benestante. Vabbè, quello è diverso. È un allora, scusa un attimo, se è anche ricco. Se per io vado, fortuna, se... e Ponti ha beccato la Loren perché vabbè, era lasciamo ricco. Bene, scusami Vittorio, se io cazzo con queste storie grottesche. È ora di finirla, Ruby era in grado di capire che voleva il Premier, sì, anche senza una lira. Ho capito, ma il codice prevede che se sei minorenne c'è un problema. Il codice prevede che se sei minorenne c'è un problema anche per chi vuole dare 10.000 euro a incontro. Dai 14 anni in su, 16 anni in su, una minorenne a 17 anni è minorenne, ma può andare a letto con chi vuole. Non c'è una minorenne vergine a 17 anni. Vabbè, adesso esaurite. Fai parlare un attimo Parenzo, Vittorio. Sì, scusami professore, perché veramente qui professore, perché lo chiami professore ogni volta? Mettiamo ordine nella discussione. Secondo il circolare è scopato la prima volta, quanti anni avevi? Ma io ne avrò avuti 14. Allora siamo, eri un minorenne, ti arrestano perché scopi? Eri un minorenne. Ma non è che ha pagato, non è che ha pagato. Cosa potrà scopare, viva Dio? Se hai scopato con una di 40 anni, saranno cazzi tuoi. Ma non ha pagato però. Intanto io non sono Presidente del Consiglio, primo. Vabbè, quello non c'entra però, quello non c'entra. Però e quando diciamo ho avuto i miei rapporti, sono fatti miei, che sì, io ragazzi, un accordo che era un accordo di libertà di decidere cosa fare e cosa scambiarvi, affetto o danaro? Sì, ma il punto è che è minorenne, non hai capito? Ma no, non solo questo. Che cosa allora? Non è solo questo, secondo il singolare ragionamento del professore, se tu ti chiami briatore. No, ma non c'entra niente, questo non l'ha mai detto, questo non l'ha mai detto. È questo che lui dice. No, non l'ha mai detto. Se tu sei ricco, bello e famoso, le ragazze, anche minorenni, vengono con te perché sei bello, ricco, famoso. Che c'entra? E questo sembra una discriminante secondo Vittorio. Ma non è una discriminante, non lo dici. Discriminante. No. Anche se non dai liquido, dai però dei benefit. Ed ecco qua, ho capito Vittorio, il codice prevede che se uno è minorenne intervviene un problema, c'è un problema, che se no, uno paga, problema, come no? Tu dici morale, no, secondo i magistrati sì. Se un 74enne non spiega una cosa. Però dimmi una cosa, perché allora la Boccassini fa tutto questo? Quello è motivo solo politico, secondo te? Perché siamo, hai finito lo stato di diritto, cioè stamattina quando mi hanno comunicato questa cosa siamo impazziti, cioè Rubi ha detto per me Berlusconi è come la Caritas, allora sì, io vado con Berlusconi, non gliela do, oppure gliela do, ma lui comunque negano, tutti e due negano, tutti e due negano, in vacanza, io vedo che non mi ha sfruttato ma mi ha regalato qualcosa e c'è un'inchiesta, ma si è lamentata la vittima? Ha protestato la vittima? No, quello si no. È dichiarata vittima? No. Se non c'è la vittima, dov'è il reato? Se lei vuol prendere 1.000 euro da Berlusconi, saranno cazzi suoi? E se non li vuole prendere saranno cazzi suoi? Su questo se però vuole prendere semplicemente una comoda stanza d'albergo saranno cazzi suoi? No, senti, voglio farti calmare un attimo Vittorio, perché no, devo perché chiudere. Non ne posso più, no, ma il sei contro di me perché state con la Boccassini. No, ma noi che con la Boccassini, sei impazzito? Siete due comunisti, siete due ha ragione, chiamo il premio e dico non puoi avere quei due lì che sono alleati della Boccassini. Ma guarda che non decide, per fortuna non decide, no, lo so bene, vi ho già capito voi due, voi fate siete dei sovversivi. È nato il colibrì Silvio, è nato il colibrì Silvio. Quello è bello. È nato il colibrì Silvio, vabbè. Bello. Ciao Vittorio, ciao Vittorio, ciao. Giornale Radio, ciao. Di nuovo in diretta con la Zanzara, 19:18, 800 24 00 24. Cosa dire dopo l'esplosione di Sgarbi, caro Parenzo? E non prendere debitamente le distanze, perché il professore stavolta ha toppato. Perché sto professore? Perché lo chiami professore ogni volta? Mica è professore. Sì, forse è stato professore. Per me è sempre professore, ma vabbè, ha detto delle castronate. Tu sei il solito, non dico lecchino, però devi sempre lisciare il pelo. È professore Sgarbi. Ha detto delle cazzate megagalattiche. Per esempio? Perché tra i 14 e i 18 anni il codice prevede che allorquando vi sia pagamento di denaro, sì, il codice definisce questo prostituzione minorile. Sotto i 16 anni addirittura è prevista la violenza sessuale. Allora, siccome il codice prevede questo, se i nostri legislatori intendono cambiare questa normativa perché la ritengono troppo ristretta, anziché occuparsi del legittimo impedimento e di legge ad personam, si occupino di questi, di cambiare allora, il codice. Allora, leggiamo questo articolo 600 bis. Che tra i 14 e i 18 18 è prostituzione minorile. Allora, 600 bis, prostituzione minorile. Chiunque compia atti sessuali con un minore d'età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o di altre utilità economiche è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni con la multa non inferiore a 5.164 euro. Questo a prescindere, al contrario di quello che diceva Sgarbi, dalla questione della, del consenso, del consenso da parte del, del minore. Sentiamo i titoli del TG3. Caso Rubi, la Procura di Milano chiederà il processo immediato per Berlusconi, concussione, prostituzione minorile e reati ipotizzati. Gli avvocati del Premier, inchiesta assurda e Milano non è competente, mai rapporti sessuali con Rubi e tutto il PDL parla di persecuzione. Bersani è un uomo in fuga da se stesso, speriamo si siano risparmiati altri mesi di agonia. Di Pietro, assurdo parlare di persecuzione. Ore drammatiche in Tunisia, la TV di Stato preannuncia un importante comunicato al popolo. Ben Ali ha lasciato il paese, il racconto degli inviati del TG3. Mirafiori, tra poco chiuse le urne, poi la conta dei sì e dei no al piano Marchionne, Sacconi con il no vicolo cieco, Camusso, accordo senza modernità. Giovanni Paolo II diventerà beato il 1 maggio, guarì una suora dal morbo di Parkinson e riconosciuto il miracolo. A Roma la mostra con i documenti d'archivio del Partito Comunista Italiano, 70 anni di storia d'Italia, i miti e le speranze di intere generazioni. Everybody bunga bunga party! Allora, grande canzone dei Ridillo, una delle nostre colonne sonore preferite, 800 24 00 24, sai chi c'è qui in studio a Milano con me, caro Parenzo? No, non posso saperlo, sono a Roma. Lo so, ho capito, cerca di indovinare, un parlamentare del PDL che recentemente, dopo un'intervista al Corriere della Sera in cui aveva dato dei giudizi su alcuni ministri, è stato un po' rimproverato dai vertici del suo partito, ti ricordi? No. Come no, un sincero moderato evita. Ma come moderato? Che significa? Tu sei quello che giudica la moderazione di una persona in base a che cosa? No, uno che fa sempre dichiarazioni, come dire, sotto tono, è uno che parla chiaro, che parla chiaro, che dice come la pensa, spesso anche sopra le righe o comunque fuori dai canoni tradizionali della comunicazione politica. Certo. La persona che tra l'altro adesso vive a Roma, ma è molto radicata qui dove sono io, non dove sei tu, dove sono io, cioè qui a Milano. Capito, l'hai capito o non l'hai capito? È l'onorevole Giorgio Stracquadani. Eccolo qui, buonasera. Buonasera, gli ascoltatori di Radio 24. Il Predellino, mitico Predellino. Allora, qui... chiariamo una cosa, Stracquadanio, che giudizio dà di questa iniziativa giudiziaria? Cioè è una cosa doverosa perché c'erano delle ipotesi di reato eccetera eccetera, oppure è una manovra, come dice gran parte del PDL, politica per incastrare Berlusconi? Domanda scontata, risposta forse scontata. È un bunga bunga giudiziario che si svolge nei locali della procura tra un pubblico ministero che ha problemi perché perseguita famiglie ipotizzando reati sessuali che non esistono e ha avuto dedicato un libro su questo, e invece di essere stato radiato dall'ordine giudiziario viene incaricato di svolgere ancora indagini dove ha toppato. Cioè di chi parla, scusi? Del pubblico ministero Forno, che è titolare a Milano delle indagini sui reati sessuali. Lei saprà che c'è un libro che documenta tutti gli errori che ha fatto e tutte le famiglie che ha perseguitato. Ne cito solo... Non c'entra niente con la vicenda di Berlusconi. Lei sta parlando del passato giudiziario di uno che ha fantasmi sessuali. Cioè, lei sta dicendo Forno ha fantasmi sessuali. È certo, perché quando... Cito solo uno dei tanti casi dove il PM Forno ha toppato. C'era una bambina di 2 anni che presentava delle lesioni all'ano. Per qualche ragione finì da un medico che fece una denuncia. La denuncia finì nelle mani di Forno. Forno fece delle indagini, anche delle perizie un po' avventate, e accusò il padre di violenza sessuale. Ebbene, quella bambina aveva un tumore all'ano. Il padre andò in galera e la bambina dovette essere operata. Vabbè, questo però con la vicenda Berlusconi che c'entra? Cioè, Forno ha commesso qualche errore, cioè a qualche inchiesta è andata male. Qualche inchiesta di Forno. Molte inchieste di Forno partono da un pregiudizio sessuale. Il che mi lascia pensare che non sia una persona serena su questo aspetto. Cioè, secondo quindi lei, quando vede una minorenne che si avvicina a un maggiorenne, ritiene che questa sia, che tra loro ci sia una liaison sessuale. Dunque, ma lo ritiene il codice, non Forno. Ma scusi, Parenzo, se io sono, se io ricevo a casa una minorenne, sto avendo rapporti sessuali? Ma se c'è cambio di denaro mi pare, ma intanto bisogna rapporto trovato. Sessuale e scambio di denaro, Parenzo. Quella volta che le ho dato 100.000 lire scusi, lei e io e lei abbiamo avuto un sexual intercourse? Ma... no. Le ho dato dei soldi, me l'aveva prestato. Non eravate, scambio di denaro, che c'è? Non eravate minorenni, però. Nessuno no, di voi ma era che minorenni. C'entra? No, ma in questo detto, caso... quando c'è scambio di denaro c'è rapporto sessuale, che c'entra? Beh, se... a vedere cosa c'è nel computer della signorina Ruby, quale immagine ho trovato, cosa ho trovato? Nessuno. Come immagini? Ma quale immagini? So. Ma perché nel computer si registrano gli atti sessuali? I filmini sono stati girati in passato lì dentro villa, dentro Palazzo Grazioli. Ma lei li ha visti? Io li ho visti pubblicati su Repubblica.it, come no? Quali certo. filmini? E nessuno di ragazze che si fotografavano nel bagno, eccetera. Ah, sa che roba! E quelli erano rapporti sessuali, secondo lei? Ma non voglio stare su questo piano. Ma lei ha una cognizione di cosa vuol dire un rapporto sessuale? Però, o no, Parenzo? Al di là di guardi, questo, restiamo... Non ne ha ampia cognizione, visto di tu sei sicuro, cose. Parenzo, sei sicuro? Dice delle grandi castronerie, sei sicuro dicendo. Che tra Ruby e il Presidente del Consiglio, tu sei sicuro che ci sono stati rapporti sessuali, che sono intercorsi rapporti sessuali? Ma io non sono un magistrato, io dico che Berlusconi... Perché un magistrato ne è sicuro? Ma che dice? Ma io non lo so, io leggo la cronaca di questi fatti e ho visto i capi di imputazione. Che dico semplicemente che in un momento come questo, questo è un vantaggio per Berlusconi, perché dovrebbe andare immediatamente dai giudici, farsi processare e chiudere questa incresciosa vicenda. Chiuderla subito, chiuderla, va lì e spiega le sue ragioni, vabbè, questa porta le questa, prove. Questa è un'altra, è un'altra prove, cosa, però un attimo solo, Parenzo, io vorrei rimanere... E poi cambiate il codice, cambiate il Parenzo, Parenzo, le prove le porta l'accusa, glielo ricordo. Vorrei rimanere con quaderno su una questione. Perché io potrei accusare, se fossi pubblico ministero e le accusassi di aver rubato la Madonnina del Duomo, e lei dice: ma la Madonnina è là, fa niente, lei l'ha rubata lo stesso, quello fare è un artificio. Vabbè, ho capito, ragazzi. Un attimo solo. Forno dunque ha un pregiudizio sessuale. Sì. Fantasmi sessuali. Fantasmi sessuali. Fantasmi sessuali. E il pubblico ministero Bocchessini invece ha un pregiudizio politico. Dunque l'unione, diciamo, del il combinato pregiudizio politico del pregiudizio sessuale dà luogo a un'inchiesta dove, come è stato detto anche da autorevoli esponenti del foro milanese, è il primo caso che non sia di criminalità organizzata in cui la Procura di Milano chiede un giudizio immediato. Magari perché pensa di avere prove inoppugnabili, inattaccabili, credo che sia questo il punto, no? No, perché di solito il giudizio immediato si chiede quando si deve fermare un crimine e un pericolo che concreto e attuale. E quindi bisogna cercare di far di mandare in galera il criminale che lo sta compiendo. Cioè si sta creando un caso gigantesco, sì, dal nulla, dopo che non più di un mese fa il procuratore della Repubblica di Milano, dottor Brutti Liberati, aveva detto che non esistevano indagini in ordine a possibili reati sessuali. No, non ha detto se reati sessuali. No, non ha detto. Non esistevano indagini. Non esistevano indagini sulla questione delle telefonate, sulla questione della telefonata, della famosa telefonata. La telefonata e sulla procedura di identificazione. La telefonata non costituiva notizia di reato. Mentre oggi si dice che lo costituisce perché sarebbe concussione. Sì, sì. E sarebbe finalizzata a nascondere indagini tipo sessuale. E il procuratore aveva escluso altre indagini su Berlusconi. E siccome si era parlato sui giornali di indagini condotte da Forno titolare dell'incarico di reati sessuali, era ovvia la conclusione che secondo quelle notizie non esistevano indagini su reati di natura sessuale. Allora, Antonio da Prato, 800240024, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, io in tempi, quando venne fuori tutto il caso di Karima, mi piace richiamarla al suo nome, vero? Vabbè, chiamiamola Ruby, però sennò Karima non capisce però nessuno. Però Ruby, era quel nickname. Tanto a lei non dispiace, non è che lei si è ribellata a questo soprannome. Che c'aveva su Facebook, quindi insomma... Vabbè, comunque, la chiami come vuole. Era il suo nome d'arte, insomma, comunque... Vabbè, appunto, Antonio. No, allora, cercherò di essere breve. Cioè, io sono un operatore della Caritas e feci un invito a Ruby, siccome lei disse che andare da Berlusconi era come andare alla Caritas. Sì. Feci un invito a venirci davvero alla Caritas, a vedere, cioè, anche a quei tempi, prima della sua notorietà, tra l'altro era anche in difficoltà, insomma. E alla Caritas nessuno gli avrebbe dato 5.000 euro così, perché gli faceva pena, insomma. Guardi, credo che fosse anche da parte di Ruby una metafora, non è che si riferiva alla Caritas in quanto Caritas. Dice, andare a Berlusconi è come andare alla Caritas, nel senso che uno che ti fa stare bene, paga, eccetera. Senza voler fare il moralista, il bacchettone, cioè mi sembra che siamo un po' al delirio, cioè il fellazio paragonata alla dattilografia, il tumore all'ano, cioè ma di che cosa no scusi parlando? Questi sono no, ma fatti, il tumore è tuo, un attimo, ma di che cosa stiamo parlando di fatti, cioè, ma... no, stavamo parlando cioè Stracquadanio, stavamo parlando il distinguo se se la sedicenne viene pagata o non viene pagata. Ma scusi, questa è una questione del codice, però. Ma io sono un uomo di 40 anni, ma non me lo sogno nemmeno di andare con una quindicenne. Ma non nessuno è andato con la quindicenne, mi perdono. No, però scusi, Antonio, non so a chi si rivolge lei, se a me o a Stracquadani o prima Sgarbi, eccetera. Il problema è che l'indifendibile Berlusconi a questo punto... Cioè, la gente lo vuole difendere, si attacca alle fonti. Ma non è questione di difendere, stiamo cercando di capire quello che... Si attacca alle fonti del cielo, cioè... No, scusi, è lei che sta dicendo una cosa non vera. Sgarbi che provoca con tutte quelle sciocchezze che dice. Quest'altro signore parla del tumore all'ano, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Scusi, adesso io non devo difendere Stracquadano perché non ha bisogno di essere difeso da nessuno. Ma di che cosa stiamo parlando? Stava parlando Stracquadano del giudice Forno, non di ho capito, ma si ritorna, c'è un'altra volta i giudici con i calzini viola sono dei pazzi e dei disturbati mentali, si ritorna un'altra volta lì. Sta dicendo? Andiamo alla borsa, torniamo subito, resti con me Antonio, resti con me, borsa. L'ambulanza va mentre la città. Beh, siamo qui, caro Parenzo, programma folle questa sera, programma pazzo dopo questa notizia di Berlusconi indagato, rito immediato, chiede la procura di Milano, addirittura notizia del giorno, non ce ne sono altre, anche se si sono chiuse da poco le urne a Mirafiori, più tardi i risultati. 800 24 00 24, in studio con noi qui a Milano Giorgio Stracquadanio, il predellino, deputato del PDL. E cosa ti faccio ascoltare? Beh, qualche parola di Vendola, sigletta. È la terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Sentite Vendola che mette insieme Berlusconi, Gelmini e Marchionne, i tre nomi del capitalismo. Via. Ci sono tre nomi emblematici di un capitalismo oscurantista e autoritario: Berlusconi, Gelmini e Marchionne. Che vuol dire? Hai capito tu, Parenzo? Cerca di tradurmi questa cosa. Il capitalismo oscurantista e... che ha detto? Non mi ricordo. Autoritario. Mi suggerisce Stracquadanio. Vabbè, è abbastanza intuitivo. Ma come intuitivo? Berlusconi, Marchionne, no? Gelmini, capitalismo autoritario. Ma tu... sì, Marchionne per quello che sta facendo la FIA. La Gelmini per quello che ha fatto agli studenti. Per le riforme imposte dall'alto sulla questione dell'università, l'ingresso dei privati. Questo secondo la visione di Vendola. Vabbè, appunto, secondo la visione di Vendola. Vabbè. E Berlusconi tu per tutto quello che cerchi sempre di dare una spiegazione a cose che sono inspiegabili. Ce le No, di Vendola. Non si capisco, ma io non ho capito volta. Nulla. Il capitalismo, a parte che non so cosa sia il capitalismo oscurantista e autoritario. Autoritario, come mi suggerisce ancora Stracquadanio, che è molto più attento di me, perché io ho a che fare con mille cose. È quel capitalismo. Che capitalismo opaco, è? Spiegamelo. Quel capitalismo all'italiana, questo è vero che è così, un capitalismo di relazione, tu non sei un proprio, capitalismo di mercato. Non c'è, sei proprio di sinistra. No, sei, ma che c'entra? Ma senti, senti, interviene Stracquadanio. Ma se Parenzo questa spiegazione la sentisse Vendola, direbbe che lo sta riducendo a un, come dire, a un commentatore di una pagina economica di Repubblica qualunque. Invece è un'immagine. Invece no, è un'immagine, esatto, deve fare un'evocazione di un mostro, perché il capitalismo è un mostro, ma se è oscurantista è un vero mostro, e se è autoritario è contro la libertà. Hai capito? Ed è un mostro triplo. E se uno non comprende, come dire, la poesia vendoliana, che è fatta di evocazioni di paure, non può dire che il capitalismo opaco di relazioni, quelle sono banalità, sono sciocchezzuole che possiamo dire noi, io e lei, Parenzo, in un'analisi del, non so, del mondo di Repubblica di De Benedetti. Che ecco, il capitalismo questa roba italiano qua sia un capitalismo opaco. Ma che c'è? Ma è il capitalismo mondiale che è un oscurantista autoritario nella visione di Parenzo. Lasciamo perdere questa argomento, lasciamo perdere. PM di Milano, Parenzo, senti questa spiegazione. Ma non bevete quando fate la trasmissione. No, non c'è vino qua, c'è una bottiglia di acqua che tra l'altro è anche finita, non abbiamo offerto nemmeno l'acqua a Stracquadani. Avete offerto del vino a Stracquadani. I PM di Milano si sono inventati il reato di cena a casa del Presidente del Consiglio. Il commento... Ma chi ha detto sta cazzata? Berlusconi. Ha detto che i PM di Milano si sono inventati il reato di cena a casa del Presidente del Consiglio. Devo dire che come battuta non è malvagia. Ancora Vendola. Mi alleerei con chiunque contro la società della paura. La gente non gliene frega niente del centro-sinistra, se il centro-sinistra non è l'alternativa alla società della paura e alla società della precarietà. Io sono disposto ad allearmi con tutti e tutte quelli che vogliono l'alternativa alla paura e alla precarietà. Che poi il capitalismo oscurantista. Questa cosa interviene sempre. Certo. Se non è più ospite, vuole farsi conduttore, caro Parenzo. Interviene stile conduttore, capito? Poi, tra l'altro, ha detto un'inesattezza prima, perché sulla vicenda del dottor Forno non era per nulla lui coinvolto in quell'episodio opaco. Scherza? Che ha evocato l'onorevole. Vabbè, adesso poi verificheremo. Era il tribunale, non c'entra niente. Lui no, di che parla? Non sa di che parla. Ha sbagliato, ha tenuto uno spritz di troppo prima di venire. Ma Parenzo, dove si trova lei in questo momento? A Roma. Ma c'ha un computer davanti? Ma c'è più di uno, perché sono una. Vada sul Predellino che trova tutto documentato. Ah, Predellino è la fonte ufficiale, la Bibbia. No, ho copiato dall'Avvenire. Hai fatto un copia e incolla sbagliato dall'Avvenire. Avrà fatto un copia e incolla sbagliato. Io capisco che a lei i PM di Milano piacciono, perché sennò non avrebbe un lavoro. Ma chi se non facesse, non declamasse le loro glorie. Lei ha però fatto un copia e incolla sbagliato. Cerchi di fare il giornalista invece di fare. Cerchi di fare il giornalista, se ne riesce. Cerchi di informare attraverso il Pedrino senza il copia e incolla da Wikipedia. Cerchi di fare il perché quando lei digita su Google una parola si dice forse cercavi, perché ha sbagliato, perché sbagliato scrivere. Andiamo avanti. La storia del PM Forno è vera e documentata, posso provarla in tutte le ma sedi. Ma non è quella che lei ha evocato. Certo, andiamo avanti. Giovanni da Pisa, buonasera, caro Imbelvito, se non mi sbaglio, come sta? Buonasera, come va? Bene, lei? Sì, non c'è male. Allora, perché sei in Belvito stasera? Se sei in Belvito, ma sono in Belvito, cosa vuole, capito? Io lei lo sa, Berlusconi lo giudico un buffone, per cui questo lo sappiamo. Lo prendo sul serio, sul volo. Io ce l'ho più con le persone come l'onorevole Staguadagno e Sgarbi, che si arrampicano sugli specchi con l'olio. Scusi, a proposito di cosa? Di tutto quello che abbiamo sentito, cioè, capito? Il discorso di questo Forno che avrebbe sbagliato, perché se uno sbaglia uno, due, tre volte, ne sbaglia sempre. Se ne sbaglia 50? Come? Se ne sbaglia 50 e perseguita una serie di famiglie? Ma lei sa, c'ha 50... C'ha 50 casi. Ma i casi non sono 50. Non sono 50, no, era la domanda. Non c'è nemmeno uno. Perché? No, vede. Onorevole, ma si rende conto? Mi ascolti. Si rende conto a che livello siamo in questo paese? A livello in cui lei sta urlando come un pazzo. Di questa situazione qui. No, lei urla come un pazzo. La smetta. Ogni volta che parla lei si sputtana. Invece quando parla lei l'Italia ne ha gloria. Sgarbi difende Berlusconi perché c'ha ambizione, vuole fare chissà cosa, non lo so. Lei non lo so perché la conosco meno, ma è una cosa vergognosa. Ma cosa? Per la gente. Va non bene. Dice queste cose. Arrivederci. Qui. Scusi, bisogna smetterla, onorevole, bisogna smetterla. Ma di cosa? Di fare cosa? Non ho capito, bisogna caro Giovanni. Bisogna smetterla di dire cose assurde. Ma per il tumore all'ano, ma ci rendiamo conto, ha ragione quello della carica. Ma ci rendiamo conto? No, scusi, Giovanni, un attimo solo. Adesso cerchiamo di rimettere le cose al loro posto. Caro. Io ce l'ho con queste persone qui. Ho capito, ma lasci perdere. Fa cosa di allora, ne risponderà, ma quelli che lo incensano e li reggono. Ma qui non c'è stato nessuno. Io non voglio essere scatologico. Leggono qualcosa, non ne posso più. Ho capito, Giovanni, la questione è questa. Lei però non può parlare in generale. Ha evocato una cosa, il fatto che qui poco fa l'onorevole Straquadagno ha parlato del PM Forno. Ha fatto una valutazione su uno dei PM che stanno indagando su Berlusconi. Non è che appunto, ha ricordato come fanno spesso anche, cioè il passato dei sostenitori di Berlusconi viene scarnificato dalla mattina alla sera, compreso quello di Straquadagno, compreso quello di altri deputati del PDL. Qui Straquadagno ha detto: il PM Forno, ho dei dubbi sul PM Forno, sull'operato in tema di reati sessuali del PM Forno, perché ha ricordato 1, 2, 3, 4, 5. Cioè, qual è il punto? Non ho capito perché deve essere contestato su questo. Perché lei dice la questione non è il PM Forno, ma è quello che avrebbe commesso Berlusconi. Ma certamente, lei mi deve dire, Cruciani, mi deve dire anche lei, come si fa a sapere che due persone hanno commesso un atto sessuale? Ma infatti non lo so. Me lo deve dire. È quello che deve spiegare. Ma lo dice anche Straquadagno. In America, però, aspetti, però in America, capito? Quando ci fu il problema della Lewinsky, Clinton ebbe dei problemi grossi. Perché? Perché trovarono lo sperma sulla gonna. Allora io le posso dire, lo sperma sulla gonna c'è andato perché... perché Clinton si è masturbato e con la quindi ci fu la missione della scrivania, ci fu anche... è uno scherzo di sperma. No, calma, non ha avuto nessun atto sessuale. Però Giovanni, dire questo, Giovanni, i giudici in America non l'hanno detto perché sono delle persone oneste. Qui siamo in presenza di buffoni. Ma di chi sta parlando buffoni, quando dice buffoni? E continuano a dire delle cose e sono dei buffoni. Ma io non so a chi si riferisce lei. Mi riferisco a quello che ho sentito, cioè a Sgarbi. Ho capito, ma Sgarbi, secondo Sgarbi non esiste nessun tipo di reato, perché secondo lui anche l'articolo 600 non inquadra questo tipo di situazioni. Vabbè, questo è l'opinione di Sgarbi, io non sono d'accordo. Come vedranno i giudici questo? Ho capito, ma che cosa vuole che le dica io? Se la prenda con Sgarbi? Perché se la prende con me? Se la prende con Sgarbi? Preventivamente dire che Forno, capisce, ha ragione quello della Caritas, i calzini azzurri, dire preventivamente, Cruciani, ma questo se la prende con Stracquadagno, che c'entrano i calzini? Un attimo, perché non si deve dire niente, si deve tacere, si aspetta e si giudica dopo. Giovanni, ho capito, lei contesta difendere Berlusconi, e non voglio essere scatologico, Cruciani, ma lei mi ci costringe, non lei, Stracquadagno, non voglio essere scatologico, è un... Non me lo faccia dire. No, lo dica. Questa cosa qui è insopportabile. Vabbè, un attimo solo, Giovanni. Allora, io però voglio capire da Stracquadani una cosa. Secondo Stracquadani, in questa vicenda di Ruby e in altre vicende di ragazze coinvolte nelle feste, gli errori di Berlusconi, se ci sono, dove sono? Stracquadani, sia sincero. Parenzo, gliela possiamo fare questa domanda o no? Mi pare più che mai legittimo. Allora, vediamo cosa risponde. Ci sono errori di Berlusconi in tutte queste vicende che riguardano donne, festini? No, non ci sono. Vede, lei sta sbagliando. Vabbè, questo che stai facendo? Stai rispondendo al posto di Stracquadani? È qui a rispondere. Scusa. L'errore di non pensare che c'è la procura di Milano e che qualunque gesto che lui compia viene messo nel mirino per cercare di abbatterlo sul piano giudiziario. Questo è l'unico errore che gli rimprovero. Ma non c'è un errore di gestione di queste cose? Ma perdoni, se io invito la gente a cena, ok? Dov'è l'errore? Vabbè, evidentemente non ci sono solo le scene. Non si può invitare la gente a cena. No, evidentemente non ci sono solo le scene. Questa evidentemente mi pare, dov'è l'evidenza? Dov'è la macchia di sperma sulla gonna? No, vabbè, ho capito. Ce l'ha la pistola fumante? Non ce l'ha. E allora di che parliamo? Beh, oddio, qualche testimonianza di persone che hanno detto che c'erano delle feste un po' più piccanti, dei racconti fatti da... Ad esempio? Cosa è successo? Dimentichiamo il caso da Dario, forse? Perdoni, era una minorenne? No, appunto. E allora che c'entra? No, ma io non parlo di minorenni in questo caso. Allora, far entrare. Allora, sicuramente Ruby Rubacuori è entrata a Villa Certosa, o se non ad Guardi, non stiamo parlando della moralità di Berlusconi o di come passa le serate. Stiamo dicendo, ha avuto rapporti sessuali con minorenni questo o no? Lo so, evidentemente. No, e questa è l'accusa giudiziaria. La cosa grave è che noi ci intratteniamo sul contorno e dimentichiamo che c'è un'accusa infamante di avere stuprato una minorenne. Perché l'accusa è questa, è violenza presunta. Oggettivamente l'accusa è questa. Ma che dice? L'hai detto lei, Parenzo, il codice l'ha letto lei. Oggettivamente, la parola giusta non è stuprare. Assolutamente. È violenza. Avere rapporto sessuale. Se si ha un rapporto sessuale con una minore, è violenza presunta. Come al solito, siccome lei si informa attraverso Wikipedia o attraverso Google. No, mi perdoni, la pianta. Perché siccome sta facendo informazione in stile Google, quindi mettendo un nome sbagliato e poi gli dice forse cercavi, io ho ricordato che l'articolo del codice citato dai magistrati prevede che se uno va con una ragazza che ha età tra i 14 e i 18 anni, il reato si chiama prostituzione minorile. Allora non c'entra niente la violenza sessuale né tantomeno lo stupro, che invece è previsto da un altro articolo. La prostituzione minorile è una cosa, lo stupro è un'altra. Andate su Google e leggetevelo la differenza. No, però scusami Parenzo, non è in senso Stracquadani, lo intende non in senso tecnico stupro. No, dice che la cosa di cui è accusato Berlusconi è di aver avuto rapporti sessuali con una minore. Questo è l'aggiunta di averli avuti in cambio di denaro. Esatto, ci sono delle prove. ci saranno delle prove, no? Ah sì? Questo sa, no, non puoi immaginare. Sa cosa ha detto la procura? Sono mica un magistrato io, non mica... No, legga bene quello che ha detto la procura. Visto che mi fa tanto la lezioncina sull'informazione. Certo. Fai invece il cialtroncello, ci saranno delle prove. No, amico. Sì, perché la sua è una cialtronata. Perché la procura ha detto che quello che ha accertato attraverso la localizzazione delle celle in cui si trovava il cellulare della ragazza, che è stata ad Arcore in più date, e l'essere stata ad Arcore corrisponde ad aver avuto rapporti sessuali. Beh, può esserci anche altro, allora, può esserci anche lei, altro, onorevole Predellino, siccome la ragazza ha sempre negato, no, lei non, sta non cercando di coglionare i telespettatori, gli ascoltatori, facendo il furbetto come spesso non le riesce. Scusi onorevole Colibrì, scusi un istante, visto che vi siete Colibrì lo dice a Sgarbi e non lo dice a me. No, perché il presidente Berlusconi si è impegnato per salvare 80 uccelli. Vabbè, questo che c'è tra adesso? Onorevole Colibrì, no, il popolo della libertà è il popolo dei Colibrì, va benissimo, ma 100.000 euro per i Colibrì. Mi scusi onorevole Predellino, scusi la vicenda. Allora, come mai la signora consigliere regionale Minetti, Nicole Minetti, ex igienista dentale, è indagata per un reato affine a questo qui? Come mai... Chi portava a casa di Berlusconi? Chi portava a casa di Berlusconi? Però scusa Parenzo, qui stiamo discutendo di un'altra cosa. Deve dire se c'è l'evidenza di rapporti sessuali. Ma cosa ne so io? E allora non parli. E allora non faccia quello che ha già tratto un giudizio. Ma io non ho fatto nessun giudizio. Sì, perché lei dice indagine in corso, lo capisci o no? E che si basa sul nulla, perché non abbiamo neanche la dichiarazione della presunta prostituta. Ma questo lo diranno Longo e Ghedini, perché lo devi dire il valore straguadagno, ha letto le carte, lo diranno Longo e Ghedini. Vabbè, che comunque Berlusconi, un attimo solo, fermi, Berlusconi ha detto non vedo l'ora di difendermi in tribunale. E questa è un'ottima notizia, questa è una bella notizia, finalmente. Bene, Edoardo da Roma, 800 24 00 24, abbiamo la posizione singola, sì, 30 secondi, torniamo subito. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica? Io non mi auguro che sia Berlusconi, perché immaginatevi cosa succederebbe. Perché le escort al Quirinale sarebbe... Tu ipotizzi i corazzieri nudi che rincorrono i corazzieri. Sì, ci farebbero un film lì, Boldi, De Sica. Questo Vittorio Feltri qualche giorno fa a Cortina, come sapete, 800 24 00 24, caro Parenzo. C'è sempre con noi. Fammi ricordare solo una cosa politica. Cosa vuoi ricordare ancora? All'onorevole del Predellino. Cazzav, gli dice, non è una brutta parola, è cazzav, che non vuol dire brutte cose. Cazzav, sì, l'ex presidente di Israele, lo sappiamo, non siamo ignoranti. Che per reati analoghi, no, lo dico, non so che siete ignoranti, figurati, ma cazzav si è dimesso per accuse pesantissime, poi nel suo caso anche provate. E le sembra una differenza da niente? Mi sembra che Israele è un paese civile. Ma infatti non c'è stata una persecuzione giudiziaria verso un uomo politico. Forse da Berlusconi dal 94 a oggi è preda della Procura di Milano. Non se n'è accorto? Dov'era lei? Dunque, lei era in fasce. Forse non si ricorda perché è giovane. Io sono contento della sua beata incoscienza. Dunque, anche questa inchiesta fa parte di una persecuzione politica nei confronti di Berlusconi. Ma certo, dal 94, perché la Procura di Milano tutte si sono Secondo lei, cosa è successo in queste vicende? Si sono riuniti i magistrati scientificamente per incastrare Berlusconi? Certo, perché lei crede che nel 94, quando era arrivato il primo avviso di garanzia. No, però lasciamo perdere il 94, adesso. No, non lasciamo perdere, perché se noi ricostruiamo... È una lunga storia, dice lei, però non dico che è una lunga storia. Dico che quel procedimento si è rivelato manipolatorio, comprese le accuse che furono rivolte al mio collega Massimo Berruti, che doveva essere il tramite di chissà quali traffici, e poi è tutto... franato nel nulla. Però questi magistrati che sbagliano da allora e creano processi che hanno solo intenzioni politiche, quando i processi cadono, loro restano al loro posto, perché il problema, sai, che qui nessuno quando sbaglia paga. Ma in questo caso cosa è successo concretamente secondo te? Com'è che funziona questo complotto? Come si organizza secondo lei? Si organizza semplicemente che si ipotizza qualcosa e si cerca di dimostrarlo pur di arrivare a una imputazione infamante, e si cerca di costruire intorno il modo di incastrare Tu ci credi, Parenzo? Ma neanche, ma voglio dire, ma neanche... Ma è così evidente, Parenzo. Ma neanche per ridere. Dopodiché, se dovessimo accettare il ragionamento dell'onorevole Straguadagno, dovremmo evocare gli anni 70, quando i terroristi dicevano non accettiamo i tribunali della giustizia borghese, non riconosciamo questo tribunale. La parola persecuzione politica, Straguadagno, viene utilizzata per esempio anche da Cesare Battisti. Bravissimo, lì ti La parola portare. Persecuzione politica viene utilizzata anche da Cesare Battisti, dicendo che i magistrati... complottano, vanno oltre le leggi, utilizzano i pentiti e quant'altro per incastrarmi. È curiosa questa, questa assonanza di linguaggio? Quattro o no? Omicidi documentati e comprovati fino in Cassazione. Ci sarà qualche differenza? Parenzo, come rispondi a questo? No, ma che è evidente che ci sarà qualche differenza. Ma c'è una differenza sui reati contestati? No, c'è una differenza sui fatti, Parenzo. E anche sul processo passato in giudicato. Scusami, ma Battisti ha avuto processi passati giudicato, d'accordo? Quindi è evidente che è diverso. Beh, la differenza c'è, però siccome qualcuno ha accostato il linguaggio utilizzato da Battisti, tanto il linguaggio utilizzato da Berlusconi, che il figlio di Torreggiani, una delle vittime, ha parlato assieme a Berlusconi, evidentemente capisce la differenza, che lei non capisce. Ma è chiaro che c'è una differenza, ma ricordiamo che io non sono un attimo, l'argomento usato. Non mi dia del terrorista, su. Ma chi era del terrorista? Ma non si figuri se... Un attimo solo, Edoardo da Roma, voglio sentire Edoardo. Non evochi similitudini stupide. Secondo Berlusconi, intanto il biglietto di auguri di PM dopo la consulta. Un'altra dichiarazione di Berlusconi. Il più moderato Berlusconi dell'onorevole Straguadagno. Edoardo da Roma, buonasera. Che problema c'è? Sì, dica. Sì, no, io. Dunque, Sgarbi mi ha stimolato una riflessione che volevo un po' condividere. No? Lui sostiene sostanzialmente che, ammesso che il presidente del Consiglio abbia avuto rapporti sessuali con una minorenne, sono fatti loro. Non ha detto esattamente queste parole. Ha detto queste parole esattamente. No, come un educato, diciamo. Questo non c'è dubbio. Sono fatti loro. Allora, a me se non concesso che anche Sgarbi abbia ragione, io mi domando però come un presidente del Consiglio che giustamente fa i fatti suoi possa fare poi delle leggi che invece incidono sui fatti nostri, e quindi io cittadino comune non sono in grado di poter decidere se è malato terminale sul mio fine vita, se è omosessuale sul fatto di poter unirmi in matrimonio o in rito con c'entra perché questa è la dimostrazione che perché esiste. C'entra Parenzo, scusami, perché c'entra? Ma c'entra la grandissima, la logica e i suoi diritti, amico mio, cioè c'entra sulla vicenda per esempio della legge sulla prostituzione, ma non in assoluto per qualsiasi legge. Anche su quella però c'entra, perché chiaramente esiste una persona, che in questo caso è il Presidente del Consiglio, che ha la possibilità di fare delle leggi, che ha la possibilità le leggi, ma le fa il Parlamento. E anche eventualmente, se fosse riscontrato il reato, anche di non rispettarle a discapito. Sì, non capisco il collegamento tra quello che fa lui nella sua vita privata, la notte, eccetera, e tranne sulla vicenda della prostituzione, tutte le cose che lei ha evocato, ma dobbiamo dare la linea alla pubblicità. 800 24 0024. Eccoci qua, caro Parenzo. Ambulanze stasera? Cioè, secondo te c'è da chiamare l'ambulanza per quello che ha detto Straguadagno, per esempio, fino adesso? Ma non una. Facciamole partire, perché quando vuole Parenzo facciamo partire le ambulanze, però secondo me no, è l'opinione, voglio dire, non è che lo puoi paragonare a quelli che... Non è un'opinione, perché non stiamo parlando di opinioni, stiamo provando a parlare di fatti, cioè c'è un'inchiesta, gravissime prove, ma ho capito, ci sono, di questo stiamo parlando, e allora? In tutto questo l'onorevole Straguadagno evoca passati di un magistrato e non parla del merito della vicenda, cioè della questione politica di fondo. Cioè, qual è la questione politica? E Berlusconi, secondo te, si dovrebbe dimettere già davanti a queste accuse? Ma non dimettere, come no, dillo, no, ma non è un problema se lo dice, non è una domanda. Ma no, lo voglio sapere. Secondo David Parenzo, qui alla Zanzara, Berlusconi si deve dimettere solo in presenza di queste accuse comunque molto gravi? No, dimettere no. Dimettere no. Allora, voglio chiedere una cosa. Deve farsi processare illico e immediato, ma subito. Allora, quello infatti sarà così, non è che a parte i problemi di competenza che potrebbero nascere tra Milano e Monza. Però voglio chiedere una cosa, a Straguadagno. Sì, pare che ci sono dei problemi di competenza. Sarà possibile eccepire delle cose di competenza oppure ma no? Questo appartiene, voglio dire, appunto, alla difesa penale. Alla difesa c'ha due avvocati che sono pure deputati, che passano la giornata a lavorare fare su questo, quindi voglio dire. No, ma va benissimo, loro, adesso vedremo se la competenza è di Milano, di Monza, eccetera. Voglio chiedere ma una cosa. Già un altro piano, è un piano già giuridico, appunto, non politico. Assolutamente. È sul piano politico, però, se non dici che si deve dimettere, qual è il piano politico? Spiegami. Il suo piano politico è la reazione scomposta di chi? Di un gruppo politico di maggioranza che sta sparando ad alzo zero su una inchiesta giudiziaria, una roba che non si vede in nessun paese civile del mondo. In Israele, Kassab si è dimesso. No, beh, adesso lascia perdere il paragone con Israele, su. Allora, comunque questa è la tua opinione, va benissimo, per carità, siamo qui per questo. Una domanda straquadanio è una domanda centrale. Secondo te si deve dimettere o no? No, no, beh, fammelo chiedere in maniera corretta. Allora, fosse provato adesso, Luciani, si deve dimettere o no? Adesso no, no, assolutamente no. No, adesso Berlusconi si deve dimettere? No, perché si dovrebbe dimettere? Assolutamente no. Cioè, in questo caso la penso come te. Voglio chiedere però a straquadare una cosa. Fosse provato che ci sono stati rapporti sessuali tra Berlusconi e una minorenne, in questo caso questa Ruby Rubacuori, Berlusconi cosa dovrebbe fare? Dimettersi immediatamente? Sarebbe su Predellino. Se posso rispondere, Parenzo? Può rispondere Stracquadanio? Certo, prego. Allora non mi interrompa. Google, prego, non prego, mi interrompa. Prego, scusi. Se fosse provato un'accusa di questo genere, è ovvio che si dovrebbe dimettere, perché la stessa condanna lo porterebbe alla interdizione dei pubblici uffici. Quindi questo è un tema che non si pone. Però io vorrei anche che si... Nel momento in cui lei dice che se fosse provato, cioè se Berlusconi dicesse sì, ho avuto un rapporto sessuale di qualsiasi tipo, un rapporto sessuale può essere anche un rapporto sessuale, diciamo, light. Un rapporto sessuale. Non beh, stiamo a discutere sessuale, di ce cosa, ce ne sono, esatto, ce ne mille varianti, dobbiamo mille fare no, no, i dettagli, no. Non qualsiasi rapporto sessuale con Ruby Rubacuori si dovrebbe dimettere seduta stante. Nel momento in cui fosse provato, sì, perché la ragazza era minorenne. Okay. E questo è un reato a norma del nostro codice, e comporterebbe una condanna e un'interdizione. Mm. È ovvio questo. Vabbè, ma non è... ma nel momento, io vorrei anche che nel momento in cui sarà provato che queste accuse sono infami e infamanti e che c'è stato un tentativo di manipolazione della realtà per poter incastrare il primo ministro, che quei magistrati dell'accusa che stanno conducendo questa inchiesta fossero radiati dall'ordine giudiziario, accusati di attentato agli organi costituzionali dello Stato e sbattuti in galera. E questo è l'esito che io mi attendo. Ale, attentato allo Stato, certo. Ma questo articolo 289, tu puoi dire che Berlusconi Stracquadanio dice quindi, scusami se non ho capito male, onorevole Stracquadanio, noi siamo nella Russia non putiniana ma nella Russia stalinista. No, siamo nel... addirittura taroccano le prove, perché lei questo sta dicendo. Sì, no, perché no, è già accaduto. Che taroccano le prove? Sì. Cioè, allora, no, che allora, hanno, no, scusi, che, scusi. Che trattano come prove fatti non veri. No, se la ricorda la famosa intercettazione del Mar Mandara? Della signora Boccassini. Però adesso non andiamo, se la ricorda, no? No, perché no, ci sono precedenti specifici. Sì, però io voglio chiedere una cosa. Lei è certo che in questa vicenda ci siano taroccamenti di prove, ecco, o comunque ci... Ecco. Io sono certo che questa vicenda è inventata. No, benissimo. Scusi un attimo. Inventata è una frase da Paraguru. Siamo chiari. Lei sta, ci sono, allora, i magistrati che ci sono delle nuove prove schiaccianti, ok? Questo dicono i magistrati. Guardi, oggi se la ricorda le intercettazioni del Bar Mandara della signora Boccassini, che poi si rivelò essere un appunto trascritto su un tovagliolo di carta, e si diceva che si aveva la registrazione delle parole tra Misiani e Squillante, non se la ricorda questa? Allora, questi magistrati, il PM Forno sul campo sessuale, il PM Boccassini sui reati contro la pubblica amministrazione, hanno precedenti specifici di manipolazione degli atti giudiziari, è chiaro o no? Allora, devo dare i titoli della 7, un attimo, devo dare i titoli della 7. Insomma, la questione è molto semplice. Secondo Stracquadanio, caro Parenzo, secondo Stracquadanio, i precedenti della Boccassini, io credo che non entri nel merito di questa situazione, che comunque dichiara essere inventata questa inchiesta, però i precedenti di Boccassini e Forno è un tipo di ragionamento che tu puoi non accettare, ma è il ragionamento che fa Stracquadanio. No. I precedenti di Boccassini e Forno portano alla conclusione, secondo... Tanto la vicenda è diversa, ancora una volta la vicenda è diversa, perché... è sempre diverso quando l'ha raccontata a modo suo. No, no, ma lascia perdere il merito, perché se lui... Sì, ho capito, ma adesso non voglio entrare nel merito, solo su ogni cosa bisognerebbe dire no, la cosa del Bar Mandara non è andata così, eccetera, eccetera. Adesso lasciamo perdere... La cassetta custodita alla procura di Milano... Sì, ma lasciamo perdere il merito, ma non mi fare parlare del Bar Mandara, ti prego, non voglio parlare del Bar Mandara. Non c'era, Parenzo. falso, prove inventate, false. Si legga il libro di Misiani. Allora, andiamo a sentire i titoli della Sette. Mentana, vediamo come titolo sulla vicenda, credo che sarà al centro tra i primi titoli del telegiornale della Sette. Nuove prove sul caso Ruby e Berlusconi viene indagato a Milano per concussione e prostituzione minorile. I PM annunciano il processo immediato e convocano il Cavaliere per un interrogatorio forse il 21 gennaio. La procura prove schiaccianti, lui si difende, mi trattano da criminale. E al centro dell'inchiesta 6 giorni di incontri nella villa di Arcore a cavallo di aprile e maggio scorsi, nei giorni in cui fra l'altro Berlusconi incontrava a Milano il premier russo Putin. La presenza della escort minorenne sarebbe provata dai tabulati telefonici. Il PDL parla di giustizia orologeria per destabilizzare il governo. Gli avvocati del premier contestano la competenza del tribunale di Milano e parlano di accuse assurde di intromissione nella vita privata di Berlusconi. E i centristi e la gran parte dell'opposizione scelgono il no comment, ma il voto anticipato appare sempre più certo. Il centrosinistra attacca, secondo Bersani il premier è in fuga da se stesso. E poi si sono da poco chiuse le urne nel referendum sull'accordo Marchionne a Mirafiori, altissima percentuale di operai che hanno votato, in notate il risultato decisivo per il futuro dello stabilimento torinese della Fiat. In Tunisia crolla il regime di Ben Ali. Dopo 3 giorni di scontri e violenze, rivolte di piazza e dopo 22 anni di potere assoluto, il presidente fugge dalla capitale a bordo di un Falcon francese. È stato d'emergenza, la guida del paese passa per ora al premier. Karol Wojtyła sarà dichiarato beato il 1 maggio. Il solenne annuncio a 6 anni dalla morte di Giovanni Paolo II, che la gente voleva santo subito. Il Vaticano riconosce così le sue opere e i suoi miracoli. Va, mentre la città finalmente. Eccoci qua di nuovo in diretta 20:08 800 24 00 24. Caro Parenzo, siamo qui, direi ascoltatori. Giovanni è rimasto con noi. Giovanni, se vuole una puntatina, una... No, una puntatina è questa. È questa. Volevo chiedere all'onorevole Staguadagno, sì, se sa che anche prima del 94, dal 94 in poi, persecuzione fra virgolette di Berlusconi, se sa che anche prima del 94 invece è stato indagato. Vabbè, Giovanni, adesso rimandiamo dopo la risposta. Luca da Genova, buonasera. Luca, buonasera. Dica. Sì. Senta un attimo, io volevo, da un po' che cerco di chiamare, io volevo dire, allora, la questione, il signor dottor Parenzo, lì, il giornalista Parenzo, sì, che in pratica fa questa, sì, discussione sulle cose di Berlusconi, di qua di là. L'altra sera, la faziosità di quest'uomo, che secondo me è fazioso al massimo. Ma chi, Parenzo? Sì, Parenzo, allora? È fazioso tantissimo, perché l'altra sera, dopo il vostro titolo, dopo il titolo del TG1 che parlava della Sicilia, di quello che spende la Sicilia per la sanità, sì, sì, 17 rivolte di più, allora? Che la Lombardia, e lui ha specificato, che ha puntualizzato, e ovviamente il telegiornale di Minzolini, che il PDL non governa più in Sicilia, certo, ha puntualizzato la cosa. Sì, tra l'altro il TG1 non dico che ha rimediato, però sicuramente Lombardo ha protestato per quel servizio sulle spese della sulle assunzioni della Regione Sicilia, e credo che ieri ci fosse un'intervista di Lombardo. Ma insomma, qual è il punto, Luca? Ha puntualizzato. Subito dopo c'è stato il telegiornale della Sette. Non ha neanche dato la notizia. Lui, che è un giornalista, dovrebbe sapere che ovviamente non dare la notizia è come darla. Non l'ha data, no, nei titoli, ma l'ha data, non l'ha data del telegiornale. Perché non... Vabbè, Luca, ma chi se ne frega delle notizie che vengono date? Scusi un attimo, Luca, chi se ne frega delle notizie che vengono date nei titoli dalla Sette, nel TG1? Lei vuole dire semplicemente che Parenzo è fazioso. Vabbè, Parenzo ha le sue idee. Anch'io sono fazioso, non è che è fazioso. Chiunque ha le proprie idee è un po' fazioso. Ma la faziosità non è un male quando c'è l'onestà intellettuale. L'importante è l'onestà intellettuale, non il fatto di avere delle idee di esprimerle. Basta con questa storia di persone che vengono irregimentate, etichettate, bollate, franco bollate in uno schieramento, in un partito. Importante essere onesti intellettualmente. C'è un bellissimo blog, fazioso.com. Fazioso.com, chi lo dirige? Un ragazzo che si proclama fazioso. Ma è normale che sia così, ma fazioso delle proprie idee. Sono fazioso, manco per niente. Vabbè, ma fazioso non è una cosa negativa. Perché, non è una cosa negativa. Perché non è un intellettualmente onesto. Per questo non si dichiara fazioso. Pubblicità, pubblicità. L'ambulanza va. La nostra ambulanza, caro Parenzo, non sai quante vignette, quanti disegni mi sono arrivati in redazione dopo che ieri ho lanciato così con una frasetta l'idea di mandarci appunto delle caricature, dei disegni con un'ambulanza che ormai ci accompagna quotidianamente, eccetera, la faccia di Scilipoti che esce fuori dall'ambulanza e fa il gesto dell'ombrello e sotto la scritta l'ambulanza va. Mi sono arrivate decine. Io direi di aprire a questo punto una sorta di concorso, no? Che dici? Assolutamente. Annuncialo tu, concorso. Un appello a tutti i radioascoltatori della Zanzara, che ormai siete una comunità, chi ci ama, chi ci odia, ma comunque chi ci segue, mandateci le vostre vignette sull'ambulanza e interpretatela come meglio volete. Sì, tra l'altro nell'ambulanza non è che ci può essere solamente Scilipoti, potete mettere le caricature di chiunque, tutti i personaggi politici che transitano da qui. Parenzo, anche Stracquadanio, anche Stracquadanio stesso che dice magari. È già dentro l'ambulanza. Però come già dentro l'ambulanza? È già dentro l'ambulanza. Nel senso che la manda lei, Parenzo? La mia caricatura? No, io non so, purtroppo non so disegnare. Se la manda lei voglio l'originale. Le voglio evitare una querela, perché sulla vicenda noiosissima del bar Mandara, la famosa telefonata. Basta questo bar Mandara, che noia. Le voglio evitare che qualcuno la quereli. Evitare la querela. Ma non mi guarda nessuno, stia tranquillo. No, so che lei ha l'immunità. Poi parlate tra di voi. Parlate tra di voi. Mandatemi la canzone per Scilipoti, la paranza, perché voglio rievocare quello che è successo ieri sera, il conflitto a fuoco tra Parenzo e Scilipoti qui alla Zanzara, che oggi ha fatto impazzire migliaia e migliaia di ascoltatori, se non decine, se non forse centinaia di migliaia di ascoltatori. Scili. Lei la conosce, il dottor Scilipoti? Come? Il professor Scilipoti, che pensa dell'avventura politica del dottor Scilipoti? Che già dall'inizio non sembrava un dipietrista. Come dall'inizio? Dall'inizio della legislatura, nei suoi interventi, non sembrava un... Ma dicono il contrario, dicono che faceva degli interventi anti-berlusconiani all'ultimo faceva sangue. Faceva degli interventi molto accalorati su un serie di temi, ma mai... Ma lei i temi quali erano? Sulla salute, sull'agopuntura, sull'università, su tante cose, dove ribadiva sempre le sue battaglie. Sì. C'è stato, tra l'altro, una volta in cui è stato poco bene in aula, dopo un intervento molto accalorato, e ha suscitato in tutti un grande moto di simpatia. È molto diverso, per esempio, da un Donati, caratterialmente, Scilipoti, e l'ho detto da sempre. Cioè, Ma secondo lei, perché è passato? Qualche cosa gli sarà stato offerto? O forse qualcosa gli è stato negato nel suo gruppo? O forse qualcosa è stato maltrattato? Dunque, secondo lei è stato maltrattato nel suo gruppo? Sì, è stato emarginato. Emarginato nel suo gruppo. È credibile come spiegazione per Scili, Parenzo? Sì, è credibile quanto la mia direzione del TG1 tra qualche mese. Quella, tra qualche mese no, ma magari tra qualche anno sì. È credibile, uguale. Vabbè, paranza. Paranza. Parenzo, la paranza è, non Parenzo, la paranza. La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza. Oh, onorevole Scili, non è onorevole Scili, ma dico, chi interviene deve sapere di che cosa sta parlando, non può parlare tanto... Scusi, può giudicare anche il suo passaggio dall'Italia dei Valori ai responsabili, scusi. Dico, chiunque alza un telefono e parla e dice le cretinate... ma è un cittadino, intanto si informi è un cittadino, parlamentari che cosa hanno fatto nell'interesse del paese e se hanno fatto effettivamente il parlamentare o hanno fatto altro. Di residenza... Io sono un cristiano cattolico, lui è un ateo a 360 gradi. Questo non c'entra niente, ma già significa che sul modo di parlare e sul modo di confrontarci con gli altri abbiamo due indicazioni e due indirizzi completamente diversi. Ateo cioè significa che uno che è senza religione, perciò uno che è senza religione potrebbe fare e potrebbe dire la qualsiasi cosa, perché non dà conto alla propria coscienza e non dà conto a niente. Danza, danza, e con un lento movimento. Anche Parenzo è ateo, però. Ma che fa Parenzo, poveretto, poveretto, io che posso farci se ateo? Ma poveretto chi? Ma poveretto lei? Il signore gli mette un poco di sale in zucca e conseguentemente, ma visto che lui la testa non ce l'ha, perché dice sempre che ha mal di testa. Ma che il signore la benedica lei, amico mio, lasciamo stare il signore, parliamo di politica, su. Ma quale? Guardi, il signore lo dovrebbe aiutare molto, lo dovrebbe tenere per mano, perché lei molto probabilmente ha qualche difficoltà enorme. Ma che... Però dico vai a fare, scusa, Parenzo. Ma che difficoltà, ti rendi conto questo? Ma quale difficoltà? Capisco quello che lei dice, perché io ho difficoltà ad ascoltarlo per il telefono, poi parla pure con grande difficoltà perché si mangia qualche parola e conseguenzialmente non riesco a capire. Vabbè, vabbè, in seguito dopo abbiamo il traffico. Qui c'era Stracquadario quasi piegato in due. Sì, perché mi ha ricordato questi i duetti estivi col Divino Telma. Hai capito? Perché il divino in questo caso chi era? Il Divino Telma e Parenzo. No, è il Divino Ciliporti. A proposito del divino, il divino, devo dirti una cosa dopo il traffico. No. Paranza. Parenzo, la paranza è, non Parenzo, la paranza. Paranza è una danza. Si è palesato il divino, però si è palesato il divino, caro Parenzo, si è palesato non so da dove, perché l'abbiamo cercato oggi ma non ha risposto, non c'era, sigla. Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle. Allora, senti qua, Parenzo. Il divino maestro Telma si compiace di constatare che il ben noto. Ma come scrive? Che il ben noto vaticinio. Non lo so, aspetta. Reiterato in più occasioni in forma orale e scritta, vedasi ad esempio la sinossi previsionale diffusa nel dicembre 2010. Io poi questa un giorno la voglio avere integrale, la sinossi previsionale diffusa nel dicembre 2010. Si è puntualmente avverato. Senti su che cosa? La consulta ha reso possibile la ripresa dei processi. Ma come ex post lo dice? Ma che discorso è? Abbiamo visto nei giornali oggi. No, ma questo è pazzo. Ma non è difficile, no. Il vaticinio, cioè, era... Che vaticinio è? Se è la notizia del giorno prima. Evidente. No, scusa. No, ma lui dice prima di averlo vaticinato a dicembre. Esatto. Ma non era difficile vaticinarlo, ammettiamo. No, cosa, poi aspetta, il titolo è eccezionale. Il titolo, ma ti rendi conto che urla vendetta questa cosa? È la notizia del giorno. Non ti arrabbiare però col divino. Ma no, mi manda i matti. È come le previsioni del tempo di venerdì, oggi è venerdì 14, e tu dai quelle di lunedì scorso. Ma no, lui lo avrebbe detto a dicembre. A dicembre la sinossi previsionale. E dov'è la sinossi previsionale? E sarà depositata, guarda, in qualche scrigno. Tra l'altro, la cosa più esilarante è il titolo. Sì, perché è eccezionale il titolo. Vabbè, cancelleria privata del Divino Telma, naturalmente, sì. Eccetera. Roma, 14 gennaio 2011. Ma è a Roma adesso? Sì, sì. Allora vengo. Sì. Il titolo è questo: la consulta si allinea al vaticinio divino. No, sì. No, ma qui c'è l'interdizione, ma non dai pubblici uffici, perché futuro non ha incarichi. Ma dovrei mandare in giro uno così, cioè, neanche la libertà vigilata, deve stare in un posto sicuro. Cioè, la consulta si sarebbe allineata con Cassese, tutti quanti, Saul, okay. Tutti questi persone, sì, insomma, seriose, eccetera, professoroni nominati dalla politica, anche al Presidente della Repubblica, eccetera. Sì. Si sarebbe allineata al vaticinio divino, cioè, non so se ti rendi conto. No, ma mi rendo conto perfettamente, ma però il divino parla il divino, cioè può deludere che protesti. Il divino per è il divino. Trattamento sanitario obbligatorio è del sindaco, no? Ma non fa male a nessuno. Perché non dobbiamo divertirci? Ma ci mi sto divertendo moltissimo. Fare delle previsioni. Però ti fa andare in bestia. Mi manda il sangue al cervello. Vabbè. Allora, Luciano da Frosinone, buonasera. Buonasera, mi sente? Sì, dica. Io voglio complimentarmi un minuto con lo staff della Zanzara, voi e parenti in testa, perché ieri sera con Scilipoti ci avete fatto morire dal ridere, meglio dell'Ariel di Bisio a Zelig. Vabbè, non esageriamo, su Luciano, però grazie. Dai, è da morire dal ridere. Stasera ci siete andati vicini con Stracquadani. Sta paragonando Stracquadani a Scilipoti. Non so se Stracquadani accetta il paragone. Ma non c'è nulla di male. Ma a me piace. Ma io amo scherzare anche le situazioni più drammatiche. Perché? No, che male c'è? Ma non è stato offensivo affatto. Ma io Scilipoti lo stimo. Allora, come stimo ogni collega parlamentare. Mi perdoni. Mi scuso per. No, ma non si deve scusare. No, io sono contento che si sia divertito e vorrei farla divertire ancora. No, le spiego perché mi diverte il fatto che lei sia lì a commentare un'accusa sulla prostituzione. Lei è stato già chiaro precedentemente sulla Costituzione. Dei maggiorenni. Sì, è vero. Fa una bella differenza. Lei ha detto che vendersi per un posto in Parlamento non è reale. No, ho detto che ognuno fa quello che vuole del suo corpo e spero che questo lei sia d'accordo. Questo o no? È una cosa che nell'ambito del privato ci va benissimo. E basta, però nell'ambito di una carica di presidente. Ma lei che ne sa? Un po' meno. Ma lei che ne sa? Cioè, secondo lei Stracquadani, questa è la domanda. Allora il presidente del Consiglio non può fare quello che vuole del suo corpo? Certamente. E allora? Certamente. Ma saranno fatti i suoi o no? Sicuramente. È maggiorenne, mi pare, il presidente del Consiglio. Sicuramente, ma nell'ambito del suo privato più stretto, dal momento che questo non è più privato. No, che cosa non è privato? Mi perdoni? Se lei continua a dire che le prove non ci sono, mentre la procura dice che Vabbè, quello è un altro discorso, prove quelle verranno, poi si vedrà quello là sulle prove. Ma dobbiamo credere, onorevole, a lei o alla procura? No, ma non è questione di credere alla procura, che c'è, quello saranno i tribunali a decidere se le prove portate dalla procura sui rapporti sessuali, perché di questo si tratta. Però Luciano, dobbiamo centrare qual è il punto. La procura evidentemente pensa di avere in mano le prove, perché di questo si tratta, che tra Rubi Rubacuori e Silvio Berlusconi sono intercorsi rapporti sessuali. Indiscrezioni davano che i filmati c'erano. No, mi fate. Vabbè, ma insomma, qual è il suo ragionamento? Onorevole Stracquadani, sa qual è il punto vero e proprio? Dica. Il punto è che questa accusa nel suo ambito è ridicola, perché effettivamente compete a una sfera privata. Però il punto è che dal 14 dicembre, ma da due anni prima, noi di queste cose ne abbiamo piene le tasche. Se ci vogliamo ridere è un riso amaro. Lasci finire. Dal 14 dicembre che l'onorevole Berlusconi ha avuto, presidente del Consiglio, ha avuto rinnovata una fiducia, non diciamo no, come... Lasciamo perdere il 14 dicembre, su che c'entra adesso il 14 dicembre? Non diciamo con chi, per tacere di quelli che abbiamo nominato prima. Dal 14 dicembre a oggi, di che altro abbiamo discusso? No, vabbè, ma è la prima volta che è tornata d'attualità una vicenda che riguarda, diciamo, la vita privata di Berlusconi. Ma ce ne saranno altri. Posso? Ho paura che ci però mi scusi un attimo. Posso dare... Grazie Luciano. Posso dare ragione? Una cosa, sta qua, una domanda è questa. La vita privata di Berlusconi, secondo lei, è una vita privata che un primo ministro non può avere? Vita privata di Berlusconi è la vita privata di un qualunque cittadino che ha diritto di avere la riservatezza della sua vita privata. Però l'altro giorno a noi non dovrebbe interessare, perché a noi deve interessare soltanto quello che lui fa nella sua opera di Presidente del Consiglio. Il resto non ci interessa affatto. Però quando viene fuori... Perché ridi, Parenzo? Scusa. Perché lei conosce la vita privata della Merkel? Beh, perché sarà una vita privata più sobria. Ma che ne sa? Non c'è qualcuno che la vita privata di Berlusconi. Non c'è qualcuno che si mette a investigarla. La logica ha i suoi diritti. Però. Sa cosa succedeva a Mitterrand? Sa che cosa succedeva con Brandt? Perché non lo facevano sapere. Ma perché non c'era? Però la domanda è questa. C'è un problema. C'è un problema di cordone intorno al Presidente del Consiglio, c'è un problema di protezione intorno a Berlusconi, secondo lei? C'è un problema di mancanza di regole in questo sistema. Cioè? In Italia, dal caso Piccioni, ve lo ricordate il caso Piccioni? Qualche errore sarà stato commesso dall'entourage di Berlusconi, nella protezione di Berlusconi. Se uno vuole fare una vita privata facendo i festini con 20-30 persone, com'è evidente che è successo, o comunque non con 20-30 persone, con 5-6, ma comunque molte feste private. Feste private da cui escono tutti fuori persone che parlano perché le feste private di Berlusconi sono oggetto di inchieste giornalistiche e le feste private degli altri no? Perché escono fuori le persone che parlano. Milano, che dicono che ho fatto questo, ho fatto quest'altro, sono andato qui, mi hanno regalato 5.000 euro, 10.000 euro. Lei ha un'idea di quanto dell'impegno e anche economico che ci ha messo Repubblica per scavare dentro quella roba, per cercare... è un giornale privato, mica ho capito, ma voglio dire che esiste una convenzione. Hai idea di quanti soldi ha speso il giornale per fare la campagna su Fini e la casa di Monte Carlo? Ma non erano feste private, era un'altra cosa. Dunque, secondo lei non, dove non c'era neanche un'accusa di reato. No, infatti Fini non è stato ricattato da nessuno, mentre la cosa grave politicamente di questa vicenda è nessuno che è stato ricattato da nessuno. Noi abbiamo un premier ricattato. No, non dica fesserie perché non è stato ricattato. Ha fatto l'amore, perché se anche dentro quelle case a Palazzo Grazioli nessuno ha fatto l'amore, comunque noi abbiamo delle persone che a spizzichi e bocconi escono e dicono di aver ricevuto regali, dicono di aver avuto rapporti sessuali, vanno nel lettore di Putin e viva Dio! Mi cioè, perdoni, sarà un problema. Se maggiorenni dicono di aver avuto rapporti sessuali con chi che sia, sono fatti loro. Quindi non confondiamo i piani. Ma quindi non c'è nessuna ricattabilità del premier? Perché lei lo vede ricattato? No, sulla questione della ricattabilità si può discutere. Dobbiamo dare la borsa, torniamo subito. E siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Non so se l'ascoltatore da Frosinone voleva concludere, anzi se n'è andato. E andiamo da Giuseppe a Pescara. Buonasera. Buonasera. Dica, dica. No, mi state facendo divertire, complimenti a tutti. È probabilmente grazie, la trasmissione più comica che si può ascoltare in radio. Politica e comica, dico io. Adesso non specificare, comica già mi basta. Poi certamente facciamo comicità anche sulla politica. No, ma tutti e tre, insomma, poi chi più chi meno. Comunque, quello che volevo dire. Il terzo chi è, scusi? Gli argomenti. Il terzo chi è? Parenzo è quel politico che è con lei. Ah, tre, onorevole Stracquadagno. Benissimo. Ah, beh, poi dopo insomma i vari interventi, chiaro che gli argomenti vi aiutano, però insomma quello che volevo dire era questo, se una riflessione magari. Sì, sbaglio, sì, sì, dica, no, dica. Se io sono un marziano, no, oggi a terra, sulla terra, mi raccontano l'episodio, immagino che dico che sia una cosa corretta, no? Adesso si fa un'indagine, si capirà se quello che viene contestato al Presidente del Consiglio è vero. Se è vero, pagherà, perché è giusto, è un reato stabilito dal codice penale, vabbè. Lo paga, diversamente vedremo. Vabbè, questo siamo all'obvietà. Poi? No, però secondo me dobbiamo iniziare a parlare di obvietà, perché ho capito, però ognuno può fare. Ci fermiamo a questo, Giuseppe, allora non si può valutare perché un magistrato inizia un'inchiesta, non si può valutare cosa è accaduto. Cioè, non è che i magistrati. Io su questo voglio essere chiaro, caro Parenzo. Non sono marziano. Un attimo solo. Allora, la cosa è questa: non è che i magistrati aprono un'inchiesta solamente perché c'è una notizia di reato. Aprono un'inchiesta, c'è naturalmente una notizia di reato, la portano avanti, la alimentano, fanno delle indagini, spesso lo fanno, sì, ma spesso lo fanno non con la stessa forza, con la stessa intensità per tutti gli imputati o per tutti i presunti imputati. Questo può essere, ma non cambia la sostanza. No, ma io lo voglio dire in generale questo, quando dobbiamo pensare che i magistrati non agiscano anche a seconda delle proprie sensibilità, della propria storia politica, delle proprie convinzioni. Perché non puoi pensare che sia tutta la discrezionalità dell'azione penale in questo paese, perché purtroppo dov'è la notizia di reato? Che il signore che è seduto vicino a te, anziché occuparsi di votare, di premere, di struccare il bottone, come si dice al nord, sulle leggi ad personam, si fosse occupato del tema dell'obbligatorietà dell'azione penale, di come cambiarlo, di come migliorarlo, anziché stare lì a struccare il bottone quando l'utilizzatore finale chiamava, anziché stare lì a fare così, cambiate veramente il sistema della giustizia. Ricordiamo solo una cosa, che qui cosa? C'è un'indagine in corso, che è una piccola lezioncina di diritto facci penale lezioncina, per l'onorevole Stracquadagno, piccola lezioncina per il predellino, così poi fai copia e incolla. Il professor Parenzo, e lo mette sentiamo sul suo il principe sito. Del diritto, sentiamolo. No, il principe del foro, sentiamolo. Se non dico quale. Il foro allora, temporale, sì, quello foro da cui temporale. È uscita la materia grigia. Lasciamo stare, c'è un tribunale, ok? C'è un pubblico ministero che è quello che fa. È già sbagliato. C'è la difesa e poi perché c'è il pubblico ministero terzo, sta in procura, non sta in tribunale. È già sbagliato. Terzo, e poi c'è un giudice terzo che decide, d'accordo? Inizia un dibattimento, si discute. Il pubblico ministero porta le sue prove, la difesa dice che non è vero, e poi alla fine il giudice decide, d'accordo? Ok, io sto parlando di un'altra cosa. Scusa, Parenzo, io sto parlando di un'altra cosa. Alcune indagini vengono promosse. E potrebbe anche essere questo il caso, non lo so. E poi credo... vengono archiviate. te devi sì, anche aggiungere. Alle ogni tanto vengono promosse perché il magistrato è particolarmente sensibile su questo argomento. Secondo Stacquadanio, il magistrato Ilda Boccassini è particolarmente sensibile all'argomento Berlusconi e inizia un'indagine su Berlusconi dopo la vicenda della telefonata di Berlusconi, eccetera, eccetera, con l'obiettivo, vuole aggiungere lei perché Stacquadanio, con l'obiettivo di demolirlo politicamente. Questa è la tesi di Stacquadanio. Ecco. Ma è ampiamente condivisa. Ma anche la Corte Costituzionale è politicamente orientata a bocciare il lodo, quello che ha bocciato il legittimo impedimento perché politicamente, perché vuole colpire Berlusconi? No, lì hanno detto cose giuste Rondolino e Velardi nel loro blog quando hanno detto che la Corte Costituzionale ha voluto ribadire una supremazia acquisita sul piano istituzionale dalla casta dei giudici e loro hanno sovraordinato il giudice al governo. E questo dovrebbe essere un problema. Beh, non hanno solamente magari analizzato la legge e analizzato i diversi commi dicendo questo è costituzionale, quello è incostituzionale, così senza siccome questo la costituzionalità nasce da un'interpretazione delle norme costituzionali e nella loro interpretazione il giudice è prevalente sulla funzione di governo, è quello che hanno scritto nella Corte. Hanno voluto riaffermare la supremazia del giudice. La supremazia del giudice, tant'è vero che affidano la valutazione dell'impedimento ad partecipare a un'udienza allo stesso giudice di quel provvedimento. Allora, come nasce il legittimo impedimento? Il legittimo impedimento stabilisce la prevalenza della funzione di governo rispetto all'obiettivo dell'amministrazione della giustizia, perché in un paese democratico le esigenze si bilanciano. In questo caso l'hanno voluto riaffermare. Loro invece hanno detto che l'amministrazione della giustizia prevale, rovesciando quindi la filosofia stessa, la base di che cosa? Giuridica dell'istituto del legittimo impedimento. Perché? Sì, ma non hanno fatto un golpe da questo punto di vista, un golpe, un'interpretazione. Sto dando un'interpretazione. Ah, ok. Dove dico che hanno sovraordinato l'ordine giudiziario alla funzione di governo, e questo però sul piano dei rapporti istituzionali per certi versi è molto grave. Va bene, Giuseppe da Pescara, che come voleva concludere? Giuseppe. Sì, no, io volevo che la ringrazio, volevo concludere dicendo questo, che condividendo poi le varie posizioni che si possono prendere a favore o cioè colpevoliste o meno, io le rispetto tutte. Quello che però mi piacerebbe dire è che in realtà noi oggi siamo, cioè consideriamo che il presidente Berlusconi, diciamo, i colpevolisti dicono che il presidente Berlusconi ci fa vergognare di essere italiani, siamo presi in giro, eccetera, perché queste cose ci mettono in imbarazzo e ci fa fare brutte figure. Ma quando l'ha detto? Ma si sentono queste cose, si dicono, no? Vabbè, cioè il luogo comune. No, si dice, no, che queste, cioè, voglio dire, le manifestazioni di Berlusconi sempre gli anti-berlusconiani, gli anti-berlusconiani dicono. Ah, certo, ok, non avevo capito, mi sembrava di quello che ho detto. Allora? In realtà io però penso che, cioè, siamo noi sempre più ridicoli se continuiamo a ragionare solamente di queste cose. Ma è possibile che non vogliamo renderci conto che ci sono degli argomenti che in questo momento per noi, per la nostra vita di tutti i giorni, sono vitali? Vabbè, ho capito. Ma questo ci impone un attimo solo, di Milano, cioè, non lo scegliamo noi. Però scusi, scusi Giuseppe, il punto è molto semplice. Oggi stiamo discutendo di questo perché c'è una notizia che riguarda un reato. Ma noi discutiamo sempre di questo. Ho capito, ma che dobbiamo fare? Ma non lo scegliamo noi, è la Procura di Milano che ce lo propone. Stacquadanio vuole prendere il mio posto? Ma lo scegliamo noi perché, guardi, io abito a Roma da 20 anni. Cioè, che lei sta parlando dell'anomalia Berlusconi, del fatto che Berlusconi si trascina presso tutte queste discussioni. No, io voglio dire che l'argomento non esiste più di discussione, perché queste cose, e io non lo faccio di mestiere, il giornalista, mi occupo di altre cose, però io queste cose qui, pur non frequentando salotti tutte le sere, ma nel dettaglio, cioè la scodella Villa Certosa con le buste con i soldi, i nomi e i cognomi di quelle che andano, cioè sono cose che nella città di Roma circolano, si sanno. In questo sì. Mi fa specie che sì, poi bisogna vedere quello che è vero e quello che non è vero. Guardi, poi no, guardi. Cioè, per esempio, lei cosa sa? Per esempio, lei cosa sa? Non lo so, mi faccia un esempio. So tutto. Cioè, come sa tutto? Vuol dire sa tutto. So che l'aereo presidenziale atterrava negli aeroporti in Italia a prendere delle persone. Cioè, a prendere persone chi? A prendere persone chi? Ma non posso farle i nomi e cognomi, ma sono gli stessi. Ma nomi, no, i nomi e cognomi, a parte che il fatto che lei non faccia nome e cognome è piuttosto bizzarro, dato che dice di sapere tutto e non penso che abbia qualche ma tipo. Ma voglio dire, ma cioè, sono nomi che circolano, che si sanno. Io sono sicuro di sapere le cose perché mi sono arrivati di prima mano. Ho capito, ma Giuseppe, dire, allora mi dica di prima mano, vuol dire che lei c'era, Ascolti, non c'ero io, ma c'era. E allora non è di prima mano, è già di seconda. Ascolti, sia intelligente. Lei sia onesto. sia intelligente, quello che le volevo dire. Cosa mi voleva dire? Che si sanno, oramai sono note, qui stiamo ancora a discutere del sesso degli angeli, cioè se Berlusconi è un puttaniere o meno, questo è il punto. Se Berlusconi va con le ragazzine o meno, se le paga o meno. Invece secondo lei è tutto accertato, è tutto sicuro, è tutto provato, ma eccetera. Ma è chiaro che non è accertato, non è accertabile e non sarà mai accertabile, però non è più difendibile. La calunnia è un venticello, diceva. No, ma sta qua, un ragionamento è diverso. Dice Giuseppe che essendo queste cose ormai arcinote, cioè il fatto che Berlusconi ospita a casa sua, giusto Giuseppe, ospita a casa sua donne, casa sua, le paga. Donne, uomini, ma cioè voglio dire, lui gestisce la sua. Scusi, Straquadario, lei è mai andato a una festa di Berlusconi? Io sono stato a diverse cene, allora. Bunga Bunga? Ha visto Bunga Bunga, no? Ma quale Bunga Bunga? Nessun Bunga Bunga, no? Ma quale Bunga Bunga? Allora, lui squacca ideale, come si chiama, non lo riesco, non lo so. Parenzo, però è possibile che tutti quanti sono andati, è un altro caso quello di Straquadrano, tutti quanti sono andati a qualche festa di Berlusconi, ma nessuno ha assistito tutti via a mezzanotte. A scene di tipo sesso. Tutti quelli che non ci sono andati dicono che lo sanno. E questo è ci descrive un po' come funziona, a quelle feste dove lei è andato, non come cene, feste. Si siede a tavola, si mangia, si chiacchiera, si canta, si raccontano barzellette, si sta fino a tardi in compagnia, ci sono canzoni. Chi c'è per esempio? Donne? Ci sono delle cantanti bravissime. Solo cantanti? Ci sono delle cantanti bravissime, ci sono delle ragazze, ci sono dei ragazzi, ballerine. Sono degli uomini. Non ci sono ballerine, Lorenzo. Ma donne che... Non ci sono donnine nude che girano, non ci sono delle vergini che scappano, non c'è nulla. Ma a me neanche interessa neanche questo. Vede ma non c'è, ma c'è una letteratura che ha infognato la testa anche magari poi ascoltatore che si è fatto un film e dice che tutti lo sanno, dopodiché dice che ha avuto informazioni di prima mano, allora gli chiedi ci sei stato? No, non ci sono stato. Allora ce le ha avute di seconda, di terza, di quarta, cioè ne è nata una leggenda. Sì, però... allora io capisco che intorno a Berlusconi siano nate delle leggende, dei miti, delle favole, ma ci sarà pure qualche errore di gestione della sua vita privata, della sua vita notturna che è stata commessa da Berlusconi. Me ne può dire una di errore che c'è intanto stato? Intanto perché notturna? Tanto perché ho capito, ma perché si cena alle 9 e poi quando finisce la serata? A mezzanotte e mezza, all'una, l'ultima tutto volta abbiamo è sempre fatto così. Ma è normale, ma voglio dire, ma perché dobbiamo pensare non lo so, che tutti fanno vita monastica? No, ma perché? Secondo lei Berlusconi è un uomo solo? Berlusconi in questo momento è senza una sua famiglia e quindi cerca la compagnia degli amici, è evidente. Ecco. Ci ha raccontato lui stesso di aver passato l'ultimo dell'anno da solo. Questo è un problema secondo lei? Secondo me, come dire, è ovvio che se io fossi da solo cercherei di fare di organizzare delle serate, di chiamare della gente, di cenare con qualcuno. E fin qua nulla questione. E vorrei vedere. Ma si dovrebbe fidanzare secondo lei? Ma sono fatti suoi, questa è una roba che per fatto ridere. Per ho visto il titolo di Libero. Sì, sì. Mi fa ridere. Fa quello che crede. Però siccome non fa nulla di male a nessuno e tantomeno va con le minorenni o tantomeno è un satiro che insegue che non si è andato con una minorenne, adesso lo vedremo naturalmente. Ma non ci va con le minorenni. Sa da dove è nato tutto questo? Dall'accusa che gli fece la moglie. Dall'accusa che gli fece, la, fece moglie. La moglie. Dunque la colpa è di Veronica Berlusconi di tutto questo. Ha lanciato il dubbio. Cioè, questo è divertente. Veronica Berlusconi ha istigato la procura ad avere un'inchiesta. No, adesso stavamo parlando delle fantasie. Questo è divertente. Che, no, non parlavamo più dell'inchiesta. Un attimo, perché secondo me dal Parenzo, alto c'è Parenzo ha la radio rotta e non ci ha sentito. No, ho sentito. E allora la testa rotta, all'orecchio rotto. Non è tutto nasce. Ho detto che le leggende che circolano intorno a Berlusconi, che hanno portato quell'ascoltatore a dire che questo si, che quello che si dice è tutto vero ed è tutto certo e lui ce l'ha da lui lo sa di prima mano, nascono? Che non è vero, nascono in realtà da quella lettera della moglie dove lo accusava di andare con le minorenni. Quello ha creato un'aura intorno. Dichiarazioni mai smentite della signora Patrizia D'Addario. Ma quello non è minorenne, mi perdoni. Ma le minorenne è un altro problema. Le minorenne, di quello stiamo parlando. Stiamo parlando delle poi ci sono anche le foto ora di Villa Certosa. Esatto, ci sono un po' di stiamo cose. Parlando di altro. Stiamo parlando delle foto pubblicate da oggi. Di che cosa? Dal settimanale oggi. E cosa succedeva? Le foto di Zancheddu. Sa quante lui ne ha fatte di quelle foto? Ah, lui abbracciato con 7-8 signorine. E sai che roba! Perché lei è invidioso, perché lei non l'abbraccia. Sei invidioso, una. Ma io non sei, posso ma sai che roba? Uno che cammina per il parco con qualche ragazza attorno. Scusi un attimo, Straquadrano, ma in queste feste dove lei è andato, Berlusconi che fa? canta, racconta barzellette, canta, scherza, suona, basta, il pianoforte. Che vanno, parla, a cantare i giudici, canta, eh? Canta lì, che canta in tribunale. Vabbè, adesso questa. Parenzo è veramente animato da una invidia sociale. Traffico, torniamo subito. Una volta la porto, così le passo. Vai, magari, Parenzo, alla festa di Berlusconi, sarebbe spettacolare. Il problema c'è, certo, non ho ruolo di governo. Traffico, traffico. Non bisogna avere ruolo di governo per andare a una cena. L'ambulanza va, mentre la città finalmente sa che mostro sei. Siamo qui, Parenzo. Per forza, dove andare? Tutti, allora, sul Predellino, tutti sul Predellino. Ma lei dov'è, Parenzo? È al freddo? Dov'è? A Roma, no, sono a Roma. Ma è al chiuso? Alla redazione della 7, sì, a preparare in onda con Telese, solite cose. Ah. Ad alcune persone è bastato venire una volta a cena a casa mia, la casa del Presidente del Consiglio, per avere il proprio cellulare controllato e i propri spostamenti controllati per alcuni mesi, prima ancora che fosse iniziata ufficialmente l'indagine preliminare nei miei confronti. Anche lei ha il telefonino controllato, Stracquadagno? Penso proprio di sì. Cioè, lei pensa, aspetta, di avere telefonino? Non è che dica cose così clamorose da quelle che dice normalmente qui. Dire, che ne sa lei che cosa dico? Al telefono? Ha letto le intercettazioni, Parenzo? No. Da una notizia. Talmente, lei parla, io immagino che lei parli così come parla in radio. Quindi questa, beh, è una cosa, ma questo, grave, questo sarebbe. Non dirò anche altre cose. Avrò anche una vita privata o no? Ma sicuro, ma grazie. Allora, Giuseppe da Pescara stava parlando. Giuseppe, per concludere, dica. Giuseppe? Giuseppe, quello delle informazioni di prima mano, pronto? Giuseppe? Non mi sente, niente. Giovanni da Pisa, allora. Giovanni, ancora una cosa. Allora, no, due cosette, sì. Sono creditore di una risposta da onorevole Stracquadagno che avevo chiesto prima. Ah, c'ha ragione. Sa lui che le indagini su Berlusconi sono anche per 4 anni prima che entrasse in terra. Cioè, lui vuole dire che non c'è persecuzione? Quali indagini non c'è sono state? Che lo non dica c'è... lei, quelle sulla P2, vero? Sì, perché stava nella lista di Castiglion Fibocchi, ho anche capito, e allora altro. No, qualche altra la deve dire, quale? Allora, la presente, quella amica di Rubi, quella prostituta di alto bordo che chissà perché si chiama escort, che aveva il cellulare di Berlusconi e lo ha avvertito quando Rubi è andata in... Lei ha detto dal 93, mi ha parlato, no, parla no, del gol no, del 93, lei no, ha detto prima del 94. Parlare con lei non sia escatologico. Quello che si dice, vabbè. No, scusi, non andiamo nel dettaglio. Secondo Giovanni, scusi Giovanni, un attimo solo. No, mi risponda su questo, sull'amica No, ha un'altra domanda. Sull'amica di Rubi cosa, scusi? Sull'amica di Rubi che aveva il cellulare del Presidente del Consiglio. Ah, quella roba. Ah no, però su questo ha ragione Giovanni, devo dire la verità. Allora, perché io su questo, per esempio, all'epoca quando uscì la vicenda di Rubi, di Nicole Minetti, eccetera, eccetera, ho detto una cosa: è mai possibile che ci sia una ballerina brasiliana, con tutto il rispetto per il Brasile, anzi per il Brasile di Lula, no, ma comunque per il Brasile in generale, e per le ballerine, che ci sia una ballerina brasiliana che in mezzo alla strada abbia il cellulare di Berlusconi, chiami Berlusconi e lo avverta di una situazione che si sta creando alla questura di Milano? Secondo lei è normale? Se vuole le spiego anche perché se perché? Ecco, ce lo spiega. Semplice, è stato detto. Perché l'ha conosciuta, perché era l'amica di un conoscente del Presidente del Consiglio. Ho capito. E aveva avuto dal conoscente del Presidente del Consiglio il suo cellulare. E perché non capita questo? Beh sì, certo. Io addirittura ho avuto anche noi. Il cellulare di Parenzo, da una bella ragazza. Ma capita a tutti noi. E allora è una roba normale. Allora, vogliamo essere normali o vogliamo capito. O ci magnifichiamo? Ci cioè, secondo lei il Presidente del Consiglio dà il suo telefonino con troppa facilità? No, perché l'ha dato a un suo conoscente, a un suo amico. C'è lei per chiamare Berlusconi, che fa? Io lo chiamo a casa. Non col telefonino diretto, invece una ballerina brasiliana c'ha il telefonino diretto. Se voglio sì. Cioè diretto dalla se scorta, ho bisogno non so lo chiamo sul telefonino diretto, certo. Vabbè. Giovanni, è convinto? Ma sono convinto. Ma se fosse io lo butterei dalla finestra, onorevole. Ah, va bene, basta. Questa è metaforicamente, una... metaforicamente. Questo l'avevo capito. Metaforicamente. Questo no, visto che siccome mi ha dato specchi, no, ma tutto, se mi arrampico dagli cosa uno dica, lei c'ha sempre la risposta pronta. Una prostituta di alto bordo che telefona la sera perché c'ha il cellulare del Presidente del Consiglio. Vabbè, quella non è la prostituta di alto bordo, era ballerina brasiliana. Paese sarebbe no. comunque scusi, paese, non scusi, le dimissioni, sarebbe una risata collettiva. Qui siamo alle comiche iniziali, no? Mi finali. Ascolta? E quando finirà Berlusconi non ci divertiremo più, onorevole. Mi ascolta? Perché non ci sarà più lei, non ci sarà più Berlusconi. Il divertimento finirà. Quindi la prossima volta, lo dico a tutti, voterò per Berlusconi. Grazie. Perché? Perché, grazie. Perché? Anche perché un divertimento come stasera, quant'è che non ce l'ho? Da quando Benigni fece quella sparata con Celentano. Ma stiamo scherzando. Cioè, lei vuole votare Berlusconi per divertirsi, questa è la realtà. Questa è la diamine. Io guardi, le sono grato comunque. Siccome il voto è libero, non mi interessano i motivi. È una tragedia, una tragenda. Però il divertimento nostro verrebbe a mancare. È fantastico. Non manca, onorevole. Ho conquistato un voto. Manca, ho conquistato un voto. Ragazzi, ne vado fiero. È un bel comico. Ho conquistato un voto, ne vado fiero. No, le volevo dire solo una cosa. Sì. Non chiami una ballerina prostituta perché non è elegante. Magari quella ballerina una non ballerina è... è una prostituta di alto bordo che oggi si chiama quella che chiamò Berlusconi, quella che non è pronunciata perché mi fa ridere. Ma che abbiamo audio di Berlusconi? Audio di Berlusconi fantastici, Giovanni, magistrati invidiosi perché non invitati a cena, è una cosa spettacolare. fatemi sentire in conclusione, mancano pochi secondi. Ma mi aspettavo francamente che dopo la sentenza della Corte, per ricominciare, attendessero almeno una settimana. Invece i PM di Milano non hanno resistito e la sera stessa mi hanno mandato il loro biglietto di auguri per il nuovo anno e per l'occasione si sono addirittura inventati il reato di cena privata a casa del Presidente. Ho dedotto che sono invidiosi e che mi fanno i dispetti per non essere stati invitati anche loro. Hai capito, Parenzo? Va bene, che è un po' quello che succede a lei. È un po' quello che succede a Parenzo. Sei invidioso, però per anche fortuna tu. Non è un PM. Gli auguro di riuscire a dimostrarlo. Ne va del buon nome del paese. Gli auguro di riuscire a dimostrarlo. Spero davvero che sia così. Voglio credergli. Guarda quanto sono garantista. Bene. Concludiamo. Giovanni, grazie. Grazie. Un'ultima cosa. Sì, flash, 5 secondi. Berlusconi. Da giudici e deve giurare sulla testa dei propri figli e dei propri nipoti. Già fatto, già fatto. Ci sentiamo domani 18:30. Già fatto e non l'hanno persa. Stracquadanio, grazie onorevole Stracquadanio. Ci sentiamo domani 18:30. Che succede? Rubi, che volete? Lunedì, non è domani, è sabato. Lunedì 18:30, avete ragione. La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare.